Nella mattinata abbiamo ascoltato il contributo della professoressa Böhm sui privilegi papali, imperiali e su quello che tutto ciò ha comportato nei riguardi della fondazione e direi delle fondazioni delle università. Davanti a tutto questo esiste un movimento storico che dall'inizio dell'università si sviluppa e si conclude, o si avvia ad un certo tipo di conclusione all'interno del Medioevo. E questo è il punto su cui verterà la lezione di oggi del professor Girolamo Arnaldi, collega della Facoltà di Lettere dell'Università di Roma, il quale ci parla di origine, vita e tramonto del concetto di studium generale. Veniamo quindi, per così dire, al centro non solo della settimana del nostro lavoro, ma direi al punto focale del problema, lo studium generale. Stamani abbiamo sentito i problemi dello studio generale, della licenza docendi, licenze ubique docendi e tutti i problemi connessi. Abbiamo sentito come le autorità del papato e dell'impero operano in questa direzione. Vediamo ora la linea di sviluppo di questo andamento. Prego il professor Arnaldi di prendere la parola. Il programma prevedeva che io parlassi subito dopo il professor Elze e il professor Manselli, in quanto il tema che io dovevo trattare ha riferimento prevalentemente al secolo XIII. Desiderio mio invece sarebbe stato quello di parlare alla fine, dopo aver ascoltato tutto quello che è stato detto e deve essere ancora detto qui dentro, perché mi sembrava che soltanto attraverso una verifica basata su il periodo precedente a quello che io avevo studiato più da vicino, mi avrebbe consentito di arrivare a conclusioni certe, a vedere se non mi ero ingannato sul periodo che invece ho studiato più direttamente. Le cose hanno invece voluto che io mi trovi a parlare a metà della settimana del seminario. Purtroppo non mi sarà possibile restare, seguire il seguito dei lavori e quindi questa esperienza che ripromettevo così fruttuosa per me la farò leggendo poi gli atti e cercherò poi di condensare il molto in fondo che ho da dire perché devo affrontare parecchi temi non sempre bene collegati tra loro o perlomeno non apparentemente collegati tra loro. Mi saranno perdonate le transizioni che fanno perdere tempo e credo di contare sulla vostra comprensione anche perché devo un riguardo oltre che all'orologio qui davanti, all'amico Prodi che a un certo punto deve lasciarci, che sono contento di salutare qui, dopo tanti anni che ho sentito parlare di questa sua istituzione, di vederlo oggi in partenza per gli Stati Uniti, augurandogli ogni bene. Il mio intervento comprenderà tre parti. Una premessa sulla quale però cercherò di essere il più breve possibile nella quale cercherò di sintetizzare, soprattutto rivolto ai più giovani dei presenti, quella che è stata il frutto metodologico di questa mia incipiente esperienza di storico nelle università medievali. E due parti, una che è quella che meglio risponde al tema previsto dal programma, cioè l'idea è la realtà dello studium generale, e una seconda parte invece che è più vicina per problematica e cronologia ai temi che vengono prevalentemente dibattuti durante questo seminario, sulla crisi dell'idea e del concetto stesso di studium generale o di università nel tardo medioevo, nel periodo di passaggio tra l'età medievale e l'età moderna, cercando di vedere come il modo di considerare questa crisi deve tener conto, se possibile, di quello che invece dirò nella prima parte, cioè su quello che lo studio in generale è stato nel momento invece in cui era una realtà operante. Io non posso qualificarmi studioso di storia delle università, è un campo di studio al quale mi sono avvicinato soltanto di recente, un po' per caso, direi un po' spinto dal desiderio di rendermi conto degli inizi, soprattutto di un'istituzione la cui crisi ho vissuto molto profondamente in questi anni, ma direi che più tempo passa e più mi rendo conto che lo studio delle università medievali rappresenta, anche se non fatto da specialisti, un punto di riferimento necessario per tutta una serie di altri problemi che altrimenti rischiano di essere fraintesi se si prescinde, come spesso si fa, perlomeno negli studi italiani, dall'aspetto istituzione universitaria. Mi sembra che sia un crocevia di importanza fondamentale nei secoli centrali del Medioevo per molti problemi che vanno al di là di quelli che si definiscono specificamente come problemi di storia delle università. Faccio due esempi. Mi è capitato di leggere e di sentire anche una conferenza di Philip Wolff sul vescovo Cochon, sul vescovo di Beauvais, il famoso accusatore di Giovanna d'Arco. Ora, in tutto il discorso, di carattere in fondo non diciamo apologetico perché sarebbe far tolto al Wolff, ma così in cui si tentava in fondo di riscattare questa figura così calunniata nella tradizione storica francese, niente meno il teologo che aveva contribuito a mandare al rogo Giovanna d'Arco, mancava proprio tutto un qualsiasi riferimento a questo mondo delle naziones universitarie parigine in cui questo Cochon si era formato, e questo è il quadro istituzionale in cui egli era vissuto, e che chiarisce benissimo, se fosse preso in considerazione, come per delle persone abituate a considerare le nazioni in quei termini, in fondo abbastanza fittizi, convenzionali, in cui un gruppo nazionale passava da una nazio all'altra in base a considerazioni così di opportunità. E invece, in un momento in cui dietro questi vocaboli, questi concetti di nazione, eccetera, si andavano affermando delle realtà spirituali, politiche anche, ben altrimenti corpose. Quindi passare dalla nazione borgognosa, da una nazione all'altra, da una nazione universitaria all'altra, non era evidentemente tradire, come invece poi accadeva come accadeva inconsapevolmente per persone abituate a operare in quella sfera. Io credo che la considerazione appunto di questo mondo delle naziones universitarie e basso medievali e di vedere come siano state in fondo inadatte nella loro fissità, nella loro sclerosi, a recepire tutto quello che di nuovo ormai stava accadendo, sia un tema che al di là del problema di giustificare o meno il vescovo Cochon, cosa che poi ci interessa fino a un certo punto, sia di notevolissimo interesse. Altra occasione è stata una volta che ho sentito Sottili, e un collega che avrei dovuto essere presente qui e invece non c'è, ma mi rifaccio ai suoi interventi sulla circolazione, per esempio, delle opere di Petrarca nelle università tedesche. E non mi è mai capitato, come quella volta, di avere un'idea concreta della circolazione dell'umanesimo italiano proprio nel momento in cui era ancorata una realtà universitaria. Laddove, io ero al corrente di chi, in fondo, questa stessa problema della circolazione europea dell'umanesimo italiano la faceva in termini puramente di storia delle idee, oppure anche secondo tecniche di ricerca così con successo praticate da noi, penso al giro d'Italia medievale umanistica, cioè la storia dei codici, mi sembrava che in fondo anche in questo, abbandonando la prospettiva puramente di storia delle idee, ma anche quella di storia dei codici, ci fosse sempre qualche cosa di astratto in questi oggetti che in fondo viaggiavano di mano in mano, di biblioteca in biblioteca, una storia fatta sulla base delle note di possesso dei manoscritti. E che invece nel momento in cui dietro questi manoscritti che viaggiano, o perlomeno questi manoscritti, uno vede che viaggiano nelle borse di professori che passano da un'università all'altra e quindi corsi che si accendono in una sede e che si spengono in un'altra, questo problema della circolazione dell'umanesimo italiano, del preumanesimo, umanesimo che sia, che è così rilevante per la storia della nostra civiltà letteraria, non solo letteraria, acquistava una concretezza di tratti che prima non aveva avuto. D'altra parte, era anche inevitabile questo mio innamoramento per la storia dell'università. Io ho sempre operato al margine della storia della cultura e storia delle istituzioni, e direi che la storia dell'università consente, in fondo, meglio di qualunque altro terreno, di muoversi su questo crinale della storia delle istituzioni da una parte e storia della cultura dall'altra. Certo che questo tipo di approccio, che del resto poi che si riflette nel titolo del nostro seminario, Università e Cultura, è un titolo di approccio estremamente difficile, che richiede una serie di competenze che praticamente nessuno di noi può sognarsi di avere, perché avendo l'occhio alle istituzioni universitarie, bisogna per avere l'occhio ai contenuti culturali che queste università elaborano, che è quello che talvolta gli storici professionisti delle università dimenticano. Naturalmente in materia quelli che partono favoriti sono gli storici del diritto, perché gli storici del diritto, in quanto studiano nelle facoltà di diritto, conoscono evidentemente, sono in condizione di studiare gli svolgimenti, gli sviluppi dell'insegnamento del diritto, e al tempo stesso hanno così un abito mentale che li rende attenti agli sviluppi delle istituzioni. Difatti il meglio della storiografia universitaria italiana fino a qualche tempo fa era proprio fatto dagli storici del diritto, che per Bologna in particolare, ma solo per Bologna, avevano in fondo questa possibilità di, non so, tanto per fare un esempio, di vedere come la discussione su quella che era le società del diritto romano, questa discussione tra glossatori del secolo XIII, si riflettesse in quello che era la meditazione sulla struttura stessa dello studio bolognese nascente. Ecco, ma sono casi rari, soltanto che accanto a questo c'era invece la deplorevole trascuratezza per altri settori di studio, dove appunto, non essendoci questa doppia competenza di tipo istituzionale, storia dell'università come istituzione e al tempo stesso di contenuti dell'insegnamento, gli studi non hanno avuto lo stesso progresso. Uno dei casi, a mio avviso, più clamorosi è il problema dello studio delle arti a Bologna nel secolo XII, che è un capitolo che sotto questo profilo è praticamente tutto da scrivere, per merito soprattutto di studiosi tedeschi. I testi relativi all'insegnamento di arti dictandi a Bologna del secolo XII sono stati largamente studiati, pubblicati, ma ripeto, in una prospettiva più attenta al contenuto e soprattutto mancando sempre il raccordo tra l'insegnamento di arti e quest'altro insegnamento invece così ingombrante, così politicamente di rilievo, che era quello invece del diritto. Lo stesso discorso si poteva fare fino a epoca recente per il problema sempre del Bologna dell'insegnamento di ars degli ars notarie, ed invece è intervenuto Orlandelli che ha colmato per fortuna questa lacuna, ed è proprio un caso tipico in cui si vede come questo insegnamento sia in una generazione vicino all'insegnamento dello studium, in una generazione successiva invece si rende autonomo, si specializza per poi tornare magari alla generazione successiva in un contatto più stretto con l'insegnamento di diritto civile. Lo stesso discorso vale in fondo per quello che riguarda Parigi e la teologia. Anche lì noi troviamo una ricchissima bibliografia di studi sulle succedersi delle varie scuole teologiche, però con disattenzione a quello che avviene nel mondo, molte volte nel mondo degli artisti, finché poi gli artisti vengono clamorosamente alla ribalta sul piano della storia politico-istituzionale dello studio parigino, e di questo in fondo ci si arriva abbastanza impreparati. E basti dire che con tutta l'attenzione che è stata dedicata al problema per lasciare le scuole propriamente universitarie di teologia, ma per pensare a quelle invece degli ordini religiosi, l'importanza che hanno avuto gli studi sulle scuole degli ordini religiosi sotto il profilo dei contenuti dottrinali e la scarsissima attenzione che si è data agli sviluppi di carattere istituzionale delle scuole degli ordini mendicanti, e qui per fortuna verrà tra poco il volume del convegno di Toglie di qualche anno fa che ha colmato questa lacuna, a mio avviso, gravissima. Cioè, nel frattempo un libro come quello del Gargan, per esempio, sullo studio di Sant'Agostino di Padova, un libro perfetto sotto molti riguardi, dove però c'è proprio una disattenzione a quello che è il quadro istituzionale in cui l'attività di questo stesso studio si svolge, con gravi e con conseguenze non piccole. Per non parlare, per quello che riguarda poi gli studi di medicina e di astrologia, anche qui c'è un rarissimo il caso di un'attenzione agli aspetti istituzionali e parallelamente culturali. Penso al libro della Siraisi per Padova, uscito nel Canada nel 1973, che rappresenta una felice eccezione, e io perdono volentieri molti svarioni che ci sono nell'interpretazione di testi al libro della Siraisi, di testi latini difficili, perché ha avuto proprio il merito di porsi questo problema di come a Padova si formi quest'area di insegnamento di medicina e di arti, così importante per il futuro, e vedere aspetti istituzionali e di concorrenza nel confronto della facoltà di diritto, parallelamente invece all'affermarsi proprio di determinati contenuti. In questa situazione, in fondo, di difficoltà di riuscire a essere onnicompetenti, il rischio è quello poi di cadere invece in una concettualizzazione eccessiva, quindi si passa dal vedere la singola facoltà o il singolo insegnamento al polo opposto di vedere lo studium un po' come un'entità un po' metafisica, e io, pur rendendo atto del grande valore che hanno per esempio gli studi del Grundmann, recentemente ripubblicati nel terzo volume degli scritti scelti di Grundmann, quindi accessibili adesso in un'edizione che sono tutti insieme, i contributi suoi, questo studium è reso un po', da questo ci torneremo tra un momento perché sarà proprio il punto di partenza del mio discorso, questo studium è un po' troppo identificato, lo stesso riferimento caratteristico che lui fa alla triade studium, studio, sacerdozio e impero, alle meditazioni sulla storia universale di Burckhardt, in fondo è indizio, secondo me, di questa eccessiva concettualizzazione in materia di storia delle idee, per cui lo studium diventa un'idea più di quanto non sia una realtà incarnata in una istituzione. Quindi io, per concludere questa parte introduttiva, io credo che effettivamente la storia dell'università non possa essere concepita soltanto come una specialità. Esiste il problema dell'edizione di fonti, e che abbiamo ottimi esempi come quello che fa Sandin a Padova, a casi di eroismo individuale come quello di Padre Piana, che saluto qui presente, che rinnovano largamente questi studi, ma io credo che oltre che essere coltivata come specialità, la storia dell'università deve essere tenuta presente da tutti gli studiosi, sia di età medievale che di età moderna, e qui per l'età moderna è una delle grandi deficienze della storiografia italiana di fronte alla storiografia tedesca. Dicevo poco fa degli amici che nessuno modernista italiano del peso di un Ritter si è mai occupato di storia delle università, quindi in materia la storia delle università moderne in Italia, intendo moderne dal Rinascimento in poi, è stata fatta in maniera molto, molto rapsodica e senza quei libri che rappresentano un punto di riferimento, una guida, che invece si renderebbero molto necessari. Venendo adesso specificamente al nostro tema, io credo che si debba partire per un discorso sul studio in generale dal riferimento al citatissimo articolo di Giuseppe Ermini, Concetto di studio in generale, uscito nel 1942 e recentemente ristampato nella collana di Ermini, in una raccolta di studi di Ermini sul diritto comune. Questo articolo vale la pena di riparlarne perché è stato tanto citato quanto frainteso. Perfino uno studioso attento come lo Stellini Show, in quella sua rassegna di studi sulla storia dell'università del Medioevo e del Rinascimento, che è stata di recente ripubblicata, citando l'Ermini, dice: per Ermini lo studium generale è una scuola di insegnamento superiore che conferisce titoli validi ovunque, licenze, ubique, docenti, e il cui valore generale è confermato dall'approvazione delle autorità a carattere universale come il Papa o l'Imperatore. L'epiteto generale non ha niente a che fare con il numero delle discipline insegnate, così come non si definisce una scuola aperta a tutti. Generale si applica unicamente a una scuola autorizzata dalla Potestas Generalis. Ora, questo giudizio del riassunto dello Stellini Show non rende assolutamente la sostanza del pensiero dell'Ermini, perché se è vero che Ermini dice che studio in generale non è né lo studio aperto a tutti, cioè a persone di qualunque condizione, nello studium in cui si insegna tutto, basterebbe d'altra parte pensare Parigi, che non è uno studio in generale, perché che non sarebbe uno studio in generale perché non si insegna diritto civile, ma non è vero però che Ermini dica che lo studium generale è quello che attribuisce la licenza o docendi, è qualcosa di diverso e di più. Il discorso che fa Ermini è un discorso più complesso. Ermini è uno studioso di storia del diritto comune, in realtà è proprio in quanto studioso di storia del diritto comune che elabora questa, attraverso lo studio dei glossatori, le note sono ricchissime di citazioni, se è impossibile entrare nei dettagli, ma la sostanza di Ermini è che lo studium generale è lo studium che rispetto agli altri, che sono studi particolari, lo studium in cui che ha il monopolio dell'insegnamento del diritto comune, del diritto di tutti. Questo in fondo è di fronte agli altri studia particolaria, come se c'è un diritto comune, ci sono dei diritti particolari, così c'è uno studio in generale, uno solo, e poi invece degli studi particolari che si differenziano proprio in questa dialettica, nei confronti di questo studium che è generale per definizione e quindi unico. Quindi l'idea di studium generale nasce in maniera tale, e io credo che Ermini abbia ragione, che è impossibile poi arrivare a un plurale, insomma, non si potrebbe arrivare agli studi generali, che è il tema che abbiamo sentito trattare stamattina. Lo studio in generale dovrebbe essere uno solo, essere uno studio uno solo, e quindi in questo senso è un'idea che, per quello che riguarda che non ha trovato incarnazione, perlomeno per quello che riguarda l'impero e il diritto dell'impero, il diritto comune. Ora, stranamente, Ermini non conosce il famoso passo di Alessandro di Ross, che è un po' il cavallo di battaglia, come sapete, di Grundmann, l'ho citato prima. Ora, secondo me, a proposito di questo passo, che è sempre citato, ripeto, dico l'esegesi di Grundmann fa testo, c'è però una certa tendenza, che è anche presente, come dicevo prima, nel Grundmann, a intenderlo in una maniera abbastanza imprecisa. Cioè lo studium, che secondo, adesso qui non sto a rileggere il testo, casomai ci torniamo poi sopra in sede di discussione, mi preoccupo prima del quadro d'insieme. Questo studium, che ha sede a Parigi, e che in fondo è un po' un compenso che in questa visione di Alessandro di Ross, io adesso non entro nei dettagli di perché Alessandro di Ross abbia queste preoccupazioni, è una specie di compenso per la Francia nei confronti della Germania che ha l'impero e dell'Italia che ha il papato. Grundmann l'ha spiegato benissimo le circostanze politiche in cui questo testo è stato il memoriale di Alessandro di Ross, è stato scritto. E questo studium non a caso è lo studium che è qualcosa che riguarda la Francia, perché è proprio lo studium di Parigi. E io credo che nel citare questo passo si è troppo spesso pensato a studium come università nel suo complesso, una università che comprende tutte le sedi universitarie, tutti gli studia, e non si è tenuto presente invece che questo studium a cui Alessandro di Ross fa riferimento è proprio lo studium di Parigi. E in questo senso, questa è in fondo la sostanza poi di quello che devo dire che devo dire rapidamente oggi prima di passare al secondo punto. Questo studium di Parigi, quando Alessandro di Ross ne parlava, non era già più quello che consentiva un giudizio e un apprezzamento tipo quello che lui dava. È un po' come la storia delle stelle che si vedono quando non ci sono già più. Cioè, secondo me era già passata il momento in cui era possibile sostenere che lo studium di Parigi fosse accanto all'impero e al papato la terza potestà del mondo medievale. E come sempre succede, si arriva alla coscienza dei fatti, alla teorizzazione dei fatti, e si arriva in ritardo, quando le cose sono già successe. Naturalmente quello è, in questo senso, questo studium parigino, nel modo in cui è presentato così retrospettivamente, a mio avviso, ma questo lo vedremo dopo, da Alessandro di Ross, rappresenta in fondo l'incarnazione di quella tale idea di studio in generale che era stata elaborata invece in un campo completamente diverso, che è il campo dei civilisti bolognesi, in base soprattutto all'esegesi della famosa Costituzione Omnem citata più volte stamattina, che era il testo base per una discussione sulle scuole di diritto dell'impero. Perché Ermini ha, secondo me, un torto che nel teorizzare questo studium generale in rapporto al diritto comune introduce sempre l'elemento anche della Chiesa, lo dice sempre: impero e papato contribuiscono a questa elaborazione, mentre in realtà l'elaborazione è prevalentemente civilistica, testi alla mano si può dimostrarlo, mentre quella che casomai riguarda il papato è l'attuazione di questo proposito ideale. Soltanto che questa attuazione non avviene sul piano della Chiesa che la opera, ma non avviene sul piano del diritto della Chiesa, ma avviene sul piano della teologia. Questo in fondo è un po' lo sfasamento che avviene. Quindi abbiamo un concetto di studio in generale, come questa scuola per eccellenza, questa scuola in cui si insegna unica il diritto comune, e al tempo stesso la Chiesa che invece ruba in fondo questa idea, questa prospettiva all'impero, e la costruisce a modo suo, non però per il proprio diritto, ma per l'insegnamento della teologia. Questa in fondo è la traccia della mia ipotesi che vorrei svolgere oggi di fronte a voi. Ora, se uno segue la politica dell'impero nei confronti dell'università di Bologna, che in teoria avrebbe potuto essere il campo più adatto, nato spontaneamente lo studio bolognese, come si ripete nella tradizione sia antica che moderna di studi sulla storia dell'università di Bologna, questo studio di Bologna a un certo punto nella sua traiettoria si incontra una traiettoria autonoma, perché caduta per sempre l'ipotesi della fondazione da parte di Matilde di Canossa, vicario imperiale di Enrico V, una tesi ormai, secondo me, insostenibile, dopo gli studi recenti di vari autori, in particolare, ancora una volta, cito il Cencetti. È indubbio che a un certo momento questo incontro tra la traiettoria, diciamo, dello studio di Bologna, nato per i fatti suoi, al di fuori di un disegno di fondazione, quale che sia, e l'impero, a un certo punto l'incontro c'è, e si tratta di vedere come questo incontro in fondo è durato lo spazio di un mattino e non ha consentito lo sviluppo di questo GERTA, che poteva essere una carta molto importante da giocare da parte dell'impero. Io dico subito, per non vantare delle conoscenze di prima mano che non ho, io tengo molto presente per questa parte gli studi del Bergottini, anche questi recentemente ristampati nella raccolta dei suoi scritti a parte dell'editore Giuffre. C'è un volume, uno di tre volumi, che per buona parte è di studi universitari del Bergottini. Dico subito che purtroppo tra questi studi non è compreso, perché non è stato trovato, uno scritto del De Bergottini sulle origini dello studio di Siena, che sarebbe stato di grandissimo interesse, perché l'interesse che Federico II a un certo punto mostra sullo studio di Siena è un capitolo probabilmente che meriterebbe ancora di essere, di essere approfondito. Ora, rapidissimamente, parlo di cose conosciutissime, ma quello che interessa è un po' il filo, evidentemente, che intendo seguire. Il momento dell'incontro tra l'impero e Bologna è dato nel momento dello scisma del 1118, ancora prima nel 1116, quando Irnerio, maestro dello studio bolognese in quel momento, accetta di fare intermediario tra Enrico V e Bologna. Il momento poi successivo è quando lo stesso Irnerio offre le pezze d'appoggio giuridiche a Enrico V per la rimozione di Gelasio II nel 1118, ma dopo questo direi che proprio nella fase importantissima del consolidamento di uno studium, perché il momento dedicato è quello dopo il grande acclamato maestro, vedere che lo studium metta radici, è lì che casca l'asino, molte volte, come per usare un'espressione volgare, c'è tutta la prima metà del secolo XII, in questa che è la fase decisiva dell'ampliamento dello studio di Bologna, del consolidamento dello studio di Bologna, l'impero è completamente assente, insomma, dopo Irnerio si svolge senza nessuna presenza dell'impero. Anche il papato, adesso poi quello lo vedremo separato rapidamente, se in modo separato, il papato del resto è lo stesso. Ora, l'intervento famoso stamattina se ne è parlato, adesso io non ritorno sul discorso dell'abita, se non molto rapidamente, a me sembra evidente che quello che muove di più Federico Barbarossa nell'intervento così importante del 1158 è l'elemento di sostituzione, insomma, di creare una concorrenza di paci imperiali al sistema invece sempre più diffuso di paci territoriali. Questo direi che è il motivo che più spinge Federico Barbarossa a intervenire, cioè come mostrare che l'autorità imperiale ha gran peso in materia di pace pubblica, e questo è tanto più importante in un ambiente invece di vita di autonomia comunale così vivace come quello padano e bolognese in genere. Su questo piano, per esempio, lo dico subito, la Chiesa invece arriverà in ritardo, perché soltanto con Lucio III, quindi 1181-1185, in una nuova redazione del canone 22 del terzo concilio lateranense del 1179, anche la Chiesa interviene su questo piano del riconoscimento di garanzie speciali a quelli che si muovevano, agli esuli per amore dello studio. Invece, quello che sembra evidente è che l'interesse poi specifico di Federico Barbarossa per il diritto romano era abbastanza strumentale. Qui di solito si cita a questo proposito una pagina famosa dello Schuster, e mi sembra che il giudizio sia esatto. Ora, qui, senza stare a sollevare la questione, fu trattata anche da Bergottini con uno spirito un po' moralistico, cioè se c'è o non c'è un do to death tra imperatore che concede l'abita e giuristi bolognesi che gli rendono il servizio, questa prima consulenza giuridica della storia universitaria, che è la consulenza sulle regalie a Roncaglia. Credo che sia una questione un po' moralistica. Bergottini si preoccupa di difendere, in fondo, i giuristi bolognesi da questa macchia. Quello che sembra evidente è che non c'è da parte del... questi sono gli atti successivi che lo dimostrano, insomma, che quelle parole del prologo dell'abita, dove si parla di queste sacre divine leggi della cui scienza il mondo viene illuminato ad obbedire a Dio e a noi suoi ministri, che potrebbe essere il programma di una politica universitaria di imperiale, consapevole del valore che ha questa riscoperta di questo diritto al fine di fare del rafforzamento dell'idea e dei poteri poi connessi all'idea imperiale, è qualcosa che resta abbastanza lì, che non ha un seguito tale per cui uno è portato a credere che quel prologo sia un po' sia un'aggiunta che non corrisponda proprio perlomeno agli atti successivi, che siamo studenti, non bisogna mai ragionare sugli argomenti studenti, perché gli atti successivi non consentono di vedere che quello è l'inizio la prima manifestazione di un programma che poi viene svolto coerentemente in seguito. Di più, poi questa abita, questo è stato ricordato anche stamattina, è stata fatta soltanto per, di fatto solo per i bolognesi, ma dal punto di vista letterale non è diretta ai bolognesi. E quindi in quel momento un discorso di questo genere, esistendo solo Bologna, si rivolgeva necessariamente solo a Bologna, ma l'esclusività, insomma, di questo rapporto proprio studio bolognese intero viene già compromesso in partenza dal fatto che è un atto che poi avrà un'applicazione più universale, quindi non si crea un'esclusiva, insomma, un esclusivismo bolognese. Direi che già nel 1159, cioè un anno dopo la concessione dell'abita, i rapporti tra Impero e studio di Bologna entrano in crisi. Basta la doppia elezione del 1159 con Alessandro III, che era stato maestro a Bologna, era magister Rolandus, questa mette in crisi un po' questo rapporto. Questi anni di storia bolognese sono molto oscuri, poi spero, non so se con Liva avrò poi qualcosa di aggiungere. Certo sì è che si arriva rapidamente al 1167, dopo una fase in cui c'è l'impressione che lo studio bolognese sia un po' estraneo al rapporto città-comune intero e non riesce a far sentire la sua, si ha l'impressione che quando Bologna aderisce alla Lega Lombarda nel 1167, lo stesso anno in cui Federico Barbarossa aveva reso un'ultima visita ai maestri bolognesi, lo studio non riesce a fare sentire una sua voce diversa da quella del comune. C'è naturalmente poi le tregue del 1177 e la pace del 1183 che rappresentano momenti di rasserenamento, ma c'è poi la venuta di Enrico VI nel 1191, ma direi che nulla lascia pensare a una abita che rappresenti il primo capitolo di una coerente politica in questo senso, volta a fare di Bologna uno studium per il quale l'impero aveva un interesse particolare. Bisognerà aspettare il 1220, ma quello poi quando Federico II si reca a Bologna e assiste a un famoso c'è un episodio così ricordato da Alberto Lagandino nel Trattato de Maleficiis, un dubbio dei doctores circa problemi di procedura penale, nessun privilegio però di Federico II in questa circostanza, e direi che l'unico atto positivo di Federico II a favore di Bologna, prima che cominci la serie degli atti ostili, è l'invio a Bologna delle 10 leggi conosciute come Costituzione Basilica Santi Petri, e da su questo punto della pubblicazione delle leggi imperiali in rapporto alla pubblicazione delle decretali papali verremo in un momento successivo. Fatto sì è che l'intervento positivo appunto di Federico II a favore di Bologna è questo dell'invio di queste leggi. E direi che l'altro atto positivo è, se ha ragione ancora una volta De Vergottini, l'invio a Bologna da parte di Federico II e non da parte di Manfredi, come di solito veniva detto, di una nuova traduzione delle opere di Aristotele. E se l'episodio fosse ascrivibile a Federico II sarebbe indubbiamente una cosa abbastanza importante, proprio perché avviene su un piano, diciamo, di contenuti culturali e non semplicemente istituzionale. D'altra parte devo dire che non esiste, e sembra molto strano, certamente non esiste nella storiografia italiana, ma credo neanche nella storiografia tedesca, un lavoro complessivo sulla politica scolastica di Federico II nel contesto della sua azione di governo, in particolare di promozione culturale, politica nei confronti di Salerno, fondazione di Napoli, lotta contro Bologna, fondazione di Siena, che è un episodio anche questo molto importante. Chiudo la parentesi, arriviamo allo studio della creazione dello studio di Napoli. La creazione dello studio di Napoli non è né un favore fatto a Bologna, è un atto in polemica con Bologna, né è, cosa che potrebbe anche essere, un tentativo di costruire a Napoli quello che l'impero aveva ormai rinunciato a costruire a Bologna, cioè di farlo a Napoli, questo famoso studio in generale di cui i giuristi stavano dando parallelamente, secondo le linee indicate dalle linee, questa prospettiva. Insomma, perché non farlo a Napoli? Avrebbe potuto benissimo farlo a Napoli. Invece, nel momento che crea uno studio a Napoli, lo crea in contrapposizione di Bologna, ma non con l'idea di creare una seconda Bologna non inficiata di quel sismo, insomma, una Bologna che dava tutte le garanzie di ambiente politico locale adatte appunto alla restaurazione di uno studio in generale. E invece crea un'altra cosa, uno studium da cui devono uscire prevalentemente i funzionari per l'amministrazione, per i tribunali, come dice il diploma stesso di fondazione, del quale, tra parentesi, è strano, non esiste un'edizione critica. Noi non abbiamo un'edizione critica del diploma di Federico II per Napoli. Ho cercato di capirci qualche cosa, è complicatissimo vedere, ce ne sono più redazioni ed è difficilissimo orizzontarsi in materia. Quello che è singolare, ed è una specie di paradosso, non so più se mi è già capitato di scriverlo, ma ripeto, perché la cosa mi sembra curiosa, che mentre la Costituzione Abita è stata inserita, doveva essere inserita nel codice al posto del titolo Ne Filius Pro Patre, in quanto si dava rilievo prevalentemente della Abita all'eliminazione delle rappresaglie, quindi quello sembrava, perlomeno nella prospettiva di legislatore, il punto interessante e qualificante per trovargli un posto nel corpus iuris. Stranamente, proprio una delle ultime clausole del diploma di fondazione per Napoli prevede che siano i padri a pagare per i figli, cioè i genitori dei figli che non rientreranno per l'inizio dell'anno scolastico a Napoli sarebbero stati puniti. Quindi, in fondo, il Federico II, in questo secondo provvedimento imperiale di carattere universitario, introduce il principio di rappresaglia, proprio perché era stato negato in un'altra forma, perché qui non sono i figli per i padri a pagare, ma sono i padri per i figli. È una curiosità che mi sembra però che valesse la pena di metterla in luce. Ora, inutile soffermarsi su altri episodi, su altri aspetti napoletani che sono veramente già usciti in parte stamattina. C'è poi il duplice bando, prima quello generale del 1226 contro tutte le scuole, contro le scuole in genere delle città aderenti alla Lega, c'è poi l'atto specifico contro Bologna del secondo semestre, sembra del 26. E qui poi si pone questo episodio misterioso, ma secondo me di non grande rilievo, che è la replica tra i bolognesi, cioè il momento sarebbe inclinato il famoso privilegio teodosiano, cioè che se l'università bolognese, che era stata prima direi snobbata e poi addirittura combattuta dagli imperatori, si dà essa stessa, invece di accontentarsi della gloria di essere uno studio consuetudinario, si rivendica queste radici, questa lontana origine imperiale. Qui l'episodio conosciuto è sempre in riferimento al problema delle città regge, in cui deve esserci l'insegnamento di diritto. C'era questa vaga tradizione di una rifondazione della città di Bologna, come non nello studio, della città di Bologna, ma era questo che occorreva per la Costituzione omnem, e di solito si fa confusione tra leggenda relativa alla rifondazione di Bologna da parte di Teodosio I e invece privilegio di Teodosianum, che fa il falso costruito a Bologna, che attesta una fondazione dello studio di Bologna da parte di Teodosio II, quindi in un tempo diverso, e la cosa è diversa, perché era quello che interessava per la Costituzione omnem era che fosse una città di fondazione regia, che fosse una urbs regia, mentre il problema della fondazione da parte dell'imperatore era un di più. Ora, questo documento è un documento che, come è stato dimostrato, è legato soprattutto, per sua fortuna, a questioni di confine, addirittura tra Bologna e Modena, per il problema del possesso del Frignano, eccetera. Sembra essere un elemento determinante, e questo toglie, in fondo direi, molto valore all'episodio. Questo dovrebbe essere il tentativo dello studium di Bologna di rivendicare questa origine imperiale nel momento in cui il successore di quel presunto imperatore la stava combattendo l'uso che se ne fa localmente, l'uso che conta più che il fatto del documento in sé, è un uso legato a questioni territoriali abbastanza di rilievo abbastanza secondario, ma adesso tutto poi viene in questo famoso Chiodosiano, viene poi incluso nel registro del comune soltanto nel 1257, quando ormai se ne dico secondo un istituto, anche questo elemento iniziale di polemica si è molto stemperato nel tempo. Per tornare a un intervento imperiale a Bologna, bisogna pensare addirittura arrivare al 1312, all'inserzione ancora una volta del corpus iuris della Costituzione emanata il giorno dell'incoronazione di Enrico II stesso, e c'è un episodio naturalmente che così lunga distanza non è che serve a riattivare una tradizione. E poi c'è, come curiosità, qui è una scoperta per Gaudenzi, studioso ormai abbastanza celebrato di storia universitaria, perché insieme a tante idee sballate che ha messo in circolazione, ci sono molte perle, e alcune perle attendono ancora di essere dimostrate, di essere riconosciute per tali. L'episodio relativo all'approvazione da parte di Federico III nel 1462 della Libri Feudorum di Antonio da Prato Vecchio, e quindi insomma questo assurdo che questo intervento papale, quest'ultimo intervento papale per Bologna avvenga a favore dell'inserzione nel corpus iuris dei Libri Feudorum, cioè di quanto si poteva essere di più lontano dallo spirito dello ius comune, che era invece alla base dell'idea stessa di studium generale. Se andiamo a vedere come stanno le cose invece per quello che riguarda il papato, direi che il discorso del papato e Bologna è un discorso che si risolve molto più rapidamente, perché è un discorso quasi tutto nel quadro della licenza Decendi e del problema di sapere cosa succedeva a Bologna prima del 1219, cioè come avveniva l'adottoramento a Bologna prima del 1219, cioè sapere se la lettera di Onorio III riconosce uno stato di fatto, sancisce uno stato di fatto, oppure innova, introducendo anche per Bologna l'uso della licenza dei Cendi come era di uso a Parigi. Sulla base di questa lettera di Onorio III, gli studiosi di origini bolognesi hanno compiuto l'errore di immaginare una preistoria universitaria bolognese simile a quella parigina, diventando una scuola cattedrale bolognese nel secolo XI, invece naturalmente non è perlomeno documentata, ma ripeto, questo è un discorso che ci porterebbe lontano. E quando poi noi troviamo Niccolò IV che nel 1291-92 concede la licenza Ubique Recendi in diritto civile canonico a Bologna, ci sembra la cosa venuta molto tardi. D'altra parte non è che prima di questo momento l'ha divuta Parigi, è una cosa che di solito si dimentica di dire, si dice Bologna ha la licenza di due decenni così tardi, non gliela dà l'imperatore ma gliela dà il Papa, si dimentica, e questo toglie valore e drammatizza l'episodio, che lo stesso Papa la dà anche a Parigi, che naturalmente toglie qualunque valore di innovazione, che in fondo la licenza di due decenni era importante attribuirla consuetudinariamente, l'importante è che i propri dottori potessero esercitare dovunque, più che di avere il pezzo di carta, diventerà importante da questo momento in poi, nel periodo trattato così bene in dettaglio stamattina. Ma in una fase iniziale, evidentemente, era un diritto di fatto che riceve la sua consacrazione molto, molto tardi. Ora, trascurando una serie di problemi, se no allungo il discorso, una cosa, un tipo di provvidenza bolognese, papale per Bologna, alla quale di solito si dà importanza, è quella con cui vengono, a partire da Alessandro III, il primo caso, che richiede due prebende inglesi per un magister inglese scolaro a Bologna, è questo della concessione di benefici senza obbligo di residenza a chi erano che studiassero a Bologna. Ora, naturalmente, questi benefici sono molti, queste lettere sono molte e attirano l'attenzione degli studiosi di storia universitaria bolognese. Però, secondo me, qui il discorso non va fatto avendo presente soltanto Bologna per parlare di una politica statale per Bologna, ma va fatto vedere in contrapposizione a quello che avviene per Parigi. E allora si vede che a Bologna vanno le gocce in confronto al grosso della disponibilità che invece viene avviato su Parigi. Quindi, per quello che riguarda Bologna, io direi che se non c'è, mentre era ovvio o era da attendersi che ci fosse questo disegno imperiale, e non c'è invece una politica imperiale per Bologna, e non c'è neanche una politica alternativa, cioè puntando su altre sedi, come avrebbe potuto essere la Fondazione Napoletana, il papato a Bologna fa semplicemente arriva secondo, direi, per il problema della pace con Lucio III, prima di tutto, con Alessandro III ancora prima per le prebende abitolari inglesi e il beneficio con il diritto di non residenza, c'è l'intervento del 1219 per la regolamentazione del dottorato, del modo di concessione dei gradi accademici, c'è questa tardiva, in fondo è abbastanza veramente senza scarsissimi risultati, intervento di Niccolò IV. Ecco, l'unico punto che invece è abbastanza rilevante, ma è rilevante ancora una volta in funzione di Parigi, ed è quello poi al quale verremo subito, è la possibilità che viene, anche questa se ne è parlato anche stamattina, mi scuso di ripetere alcuni punti, la possibilità che viene data dal 1310 in poi a chierici che secondo il Consiglio Lateranense non potevano studiare né medicina né diritto civile, di studiare invece medicina e diritto civile a Bologna. Quindi questa è ma anche questa volta non è solo Bologna, se ne è parlato anche stamattina, che gode di questo beneficio, di questo privilegio, e sono concessioni che si rinnovano di 10 in 10 anni. Un punto abbastanza interessante, come riprova di quello che stiamo dicendo, è l'atteggiamento che l'impero e il papato hanno rispettivamente per quello che riguarda la pubblicazione di leggi nuove imperiali, di costituzioni imperiali, oppure di decretali papali attraverso le università. È una storia che va fatta parallelamente, perché anche qui si tende a vedere separatamente un intervento o un altro, mentre è interessante vedere i due interventi in concorrenza. E qui la Chiesa, secondo me, anticipa, se non ho visto male i testi, è una questione che ho studiato abbastanza dettagliatamente, ma sono sempre pronta a ricredermi, è una materia molto delicata, qui la Chiesa, secondo me, anticipa l'impero stesso. Perché noi abbiamo il precedente dell'abita, ma l'abita che cos'è? Non è che si dica nell'abita che l'abita deve essere studiata nelle scuole di Bologna, si dice semplicemente che l'abita va inserita nel Corpus Iuris, che il Corpus Iuris era il libro di testo base di Bologna, quindi è solo indirettamente un riferimento a Bologna. Invece è Federico II che nel 1220, l'ho detto prima, questo intervento così importante, manda a Bologna le sue costituzioni, quelle in occasione dell'incoronazione imperiale. Qui la formula invece è molto minuziosa, la formula è diversa di quella dell'abita. C'è un passo avanti e qui si fa riferimento esplicito che queste costituzioni devono essere studiate a Bologna. Cioè l'Università di Bologna diventa un luogo di pubblicazione, di promulgazione proprio, di studio di queste leggi nello spirito della Costituzione omnem. Soltanto che io credo che ci sia stato il precedente di Innocenzo III. Cioè io credo che quando Innocenzo III manda la Compilatio Quinta, e la manda nel 1210, la manda a Bologna, la manda con una formula che anticipa la formula di Federico II nel 1220. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che le cose siano così. E d'altra parte, Enrico VII nel 1312 ritornerà alla formula dell'abita, perché Enrico VII non manda affatto, non c'è fatto un riferimento allo studio della sua Costituzione, nello studio bolognese, alla lettura e allo studio. che è una formula molto simile a quella dell'abita, che è una formula vera e propria di inserzione. Invece l'episodio dei libri Teodorum nel 1462, invece quello è diverso, direi più clamoroso, ma viene, ripeto, molto, molto, molto, molto tardi. Ora, invece la Chiesa fa una politica molto coerente in materia. Io ho studiato questo problema della pubblicazione delle decretali per vedere come a Roma si è registrata la nascita della Cristina di Padova dopo la migrazione del 1922, e ho visto come Roma sia sensibilissima, cioè appena Padova da segno di vita, subito, nell'invio successivo a quello di Innocenzo III, che è quello di Onorio III, già immediatamente si segnala questo studio, questa filiazione bolognese, è uno dei più significativi documenti che segnalano la nascita dello studio di Padova. E così via, durante tutto il secolo, puntualmente le decretali vengono mandati agli studi, poi naturalmente comincia a Parigi con Gregorio IX in maniera prevalente sia su Bologna che su Padova, poi c'è l'eclissi padovana nel periodo del Geminiano, la ripresa, il ritorno poi invece con Innocenzo IV, che c'è questo uso delle università come luoghi ideali di promulgazione delle leggi. È qualcosa che la Chiesa, avendo preso lo spunto, è dato certamente da Federico Barbarossa con l'abita, però poi viene sviluppato questo spunto, è seguito nella prassi molto più costantemente dalla Chiesa di quanto invece non faccia l'impero. Però qui siamo ancora, da parte della Chiesa, una pluralità di sedi, cioè non è che la Chiesa il suo diritto, le sue leggi, infatti, rimangono uno solo studium privilegiato, rimandano da Bologna finché Bologna, appena ci sono i primi regiti di Padova si manda a Padova, poi appena Parigi si afferma, Parigi. Quindi la Chiesa qui fa una politica che punta, diciamo, su più, punta, gioca su più tavoli, non c'è quell'ossessiva predilezione che invece caratterizza la protezione che il papato dà. Questo è il punto poi di centrare il discorso, naturalmente, che il papato dà allo studio di Parigi, alla facoltà di teologia di Parigi. Ora, il discorso della politica scolastica della Chiesa, dal terzo lateranense al quarto lateranense, all'appoggio dato alla facoltà di teologia di Parigi, a partire da Onorio III, della super speculum, e poi soprattutto da Gregorio IX, è un tema che secondo me non ha ancora ricevuto negli studi il rilievo che meriterebbe di ricevere. Ogni tanto si trovano degli spunti, uno dei più significativi, in un vecchio articolo che parla addirittura del 1918 di Padre Mandonè, e uno più recente di Padre Vicer, e uno degli scritti di Padre Vicer compreso nella Silloge San Domenico e i suoi predicatori del relativo alla fondazione di Tolosa, ma come vedremo i due problemi sono strettamente collegati. Ora, venendo a Padre Vicer vede giustissimamente, secondo me, una netta contrapposizione tra quello che è l'orientamento del papato nel secolo XIII e quello che è l'orientamento invece che emerge dal Concilio Lateranense III e il Concilio Lateranense IV. Quindi non soltanto il Concilio Lateranense III e il Concilio Lateranense IV hanno avuto scarsa applicazione questo progetto di decentramento scolastico, di rivitalizzazione dell'insegnamento della teologia, si riferisce soprattutto al Lateranense IV in tutte le arcidiocesi, ma la Chiesa, il papato qui, fa consapevolmente una politica diversa, che è quella invece non del decentramento, ma quella invece della concentrazione nella sola Parigi degli studi di teologia. E il meccanismo che consente una politica di questo genere è indicato nella super speculum di Onorio III, che io vedrei volentieri citata tra i privilegi papali per Parigi, perché di fatto è un privilegio papale per Parigi, è indirizzato ai maestri di Parigi questa possibilità, in fondo, di eliminare l'obbligo di residenza per 5 anni con tutte quelle cautele possibili, e quindi spostare, consentire alla gente di spostare, prendendo atto del fatto che non si era riusciti a portare l'insegnamento di teologia a livello delle arcidiocesi. Quindi questa è la svolta decisiva, è rappresentata proprio dal 1219. Ed è tanto più una svolta che padre Vicer ha messo giustamente in luce che 2 anni prima, nel 1219 e nel 1217, Onorio III aveva invece spinto gli studenti, i professori di Parigi, di teologia, di andare a Tolosa, terra di conquista religiosa, facendo qualcosa, provocando una dispersione senso a quello che avete avuto ascolto di quella facoltà teologica di Parigi, che invece diventerà il cavallo di battaglia, cioè il tavolo che il papato giocherà tutte le sue carte per la creazione di questo unico centro di studi teologici che garantissero l'unità della fede. Ora, in questa politica a favore del papato, a favore dello studio di Parigi, che trova la sua espressione massima nelle grandi bolle di Gregorio IX, dove veramente, insomma, io credo che non si possa non tenere presente queste bolle se si vuole capire fino in fondo il senso dello studium, come è citato nel passo famoso di Alessandro di Rossi. E lì che nasce l'idea di questa specie di paradiso terrestre. Lo studio di Parigi, la facoltà teologica di Parigi, è veramente portata quasi a livello del papato, su un altro piano, insomma, sul piano. Bolle che anche queste, insomma, non hanno mai avuto uno studio adeguato, nemmeno dal punto di vista di giornalistico. Sono testi non sempre ben pubblicati, le edizioni delle cose francesi lasciano abbastanza a desiderare, e andrebbero, secondo me, riprese tutte in considerazione, perché dietro c'è proprio questa grande idea. Ora, adesso io non mi soffermo a leggere i testi, ne ho portati, ma è impossibile, il tempo qui vola, è già passato l'ora, e ancora parecchie cose da dire, quindi devo sintetizzare. Sembrerebbe che questa politica della Chiesa, del papato, insisto, a favore di Parigi, questa ossessiva, come dicevo prima, predilezione, questa ossessiva scelta a favore di un monopolio dello studio teologico parigino, sia in contraddizione con l'episodio di Tolosa del 1229. Ora, invece, così non è. L'episodio di Tolosa, che noi conosciamo attraverso la famosa lettera la famosa lettera manifesto, insomma, di Giovanni di Garlandia, che è un testo di difficilissima interpretazione, sia diplomatistica che di contenuto, è un episodio che va molto ridimensionato. Intanto era in atto una cessazione dello studio parigino, e quindi in fondo era un momento di crisi. Ma l'episodio principale, che è l'avvio di Gerardo de Cremona allo studio di Tolosa, non è affatto, come risulta anche da certe incertezze che ci sono in quest'ultimo scritto di padre Vicer, il tentativo di creare una facoltà teologica a Tolosa, ma è soltanto, che è cosa del tutto diversa, il tentativo di rinforzare lo studio teologico dei domenicani a Tolosa nel momento in cui era fallita la creazione di un'università a Tolosa, compreso l'insegnamento di teologia. Quindi io non nego che ci sia stato un momento l'idea di tentare su Tolosa, ma ripeto, Parigi era, non si poteva sapere come andava a finire l'episodio, il grande sciopero universitario del 1229. Ma quando Gerardo da Cremona va a Tolosa, no, viene mandato dal capitolo generale del suo ordine a Tolosa nel 1230, spostato da Parigi, è stato il primo maestro regolare nella facoltà teologica, ci va per compensare in fondo una cosa che era, per riparare qualcosa che era già fallita, e ripararla nella maniera che si andrà sempre più affermando, cioè insieme a questa facoltà teologica di Parigi, che è l'unica che dà il dottorato in teologia, la proliferazione di queste scuole variamente graduate degli ordini mendicanti, e quella di Tolosa sarà una di quelle più importanti, che assolutamente non sono facoltà teologiche vere e proprie. Quindi lo stesso padre di Vicer che in fondo intuisce bene il termine del problema, ha poi torto quando parla di facoltà teologica di Tolosa già per il secolo XIII, mentre a Tolosa non c'è una facoltà teologica nel secolo XIII, c'è invece una scuola dei domenicani, ai quali i domenicani tengono moltissimo e si mandano il fiore dei loro maestri dopo che hanno insegnato a Parigi, ma non è aggregata all'università, quindi che poi ci siano dei riti dell'università, delle messe che si svolgono nei conventi dei domenicani, questa è completamente un'altra cosa, che il convento domenicano rappresenti un punto di riferimento, anche a Padova il convento domenicano o quello francescano è un punto di riferimento per lo studium, ma non vuol dire che però siano già incorporati come facoltà teologica nello studio, sono due cose completamente diverse, anche perché questi studi non avevano sede, e quindi non avendo sede è chiaro che il luogo di raduno materiale, l'edificio, era il convento domenicano. Basta pensare a San Giacomo a Parigi, prima che nasce il collegio universitario, verso la metà del secolo XIII, c'è soltanto la proliferazione delle scuole, delle isole di strani, e c'è a partire da un certo punto in avanti, è già. E quello è l'edificio, il punto di riferimento anche proprio dal punto di vista monumentale. Però non vuol dire, ripeto, che sia nata a Tolosa una facoltà teologica, perché effettivamente, a parte il caso inglese, che io qui non cito, però anche lì nessuna attribuzione di laurea in teologia, c'è proprio nessuna, si può dire che fino a quel momento di insistirsi di privilegi papali verso la metà del secolo XIV, sull'elenco distribuito stamattina dalla relatrice di stamattina, la Frau Böhm, c'è chiaramente indicata la serie delle fondazioni di facoltà teologica, no? Padova, Bologna si susseguono di pochi anni, di tre anni, due anni, sono tutte nello stesso momento, ma questo siamo a metà del secolo XIV, quindi nel secolo XIII nessuna facoltà teologica se non quella di Parigi. Chi riesce a tenere in piedi questo sistema? Che è basato su questa facoltà teologica molto accarezzata dai papi, dicevo prima Tolosa, per lo stesso Gregorio IX che fa delle concessioni a Tolosa nel 1233, si precipita il giorno dopo a scrivere a Parigi: guardate che quello che concede Tolosa non toglie nulla ai vostri privilegi, al vostro monopolio per l'insegnamento. Per l'insegnamento della teologia. Quindi c'è un'idea qui da parte del papato, c'è un'idea precisa di fare di Parigi veramente lo studium generale teologico formato a immagine e somiglianza di quello studium generale dello ius comune, che invece in fondo non è mai nato, che anche se su quel terreno è nata l'idea stessa di studium generale nella sua formulazione più radicale. Nel profilo delle idee. Il punto in quel programma papale, la crisi del programma papale, è gli anni 50 del secolo XIII, quando questo sistema basato sulle scuole dei mendicanti alla periferia e su questa unica facoltà teologica a Parigi da cui tutti dovevano passare, entra in crisi perché c'è la rivolta dei maestri secolari contro questa presenza ingombrante dei frati di Saint-Jacques e degli altri ordini mendicanti che dietro la spinta dei domenicani si fanno avanti anche loro a grandi gomitate e spinte. Quello è il momento in cui tutto entra in crisi, ma la Chiesa, il papato riesce sostanzialmente a far superare queste difficoltà. È inutile adesso entrare in Italia, esiste una sterminata di geografia in materia. E io non credo che c'è stata la lotta stamattina, se così è stato capito, non era quello che volevo dire quando dicevo che Borst pone troppo tardi la crisi dello studio in generale di ispirazione papale. Io dicevo, non la riportavo agli anni di metà del secolo XIII, perché allora questo studio in generale parigino papale sarebbe vissuto veramente troppo poco. E io credo che il momento decisivo è stato quello connesso alla seconda venuta di San Tommaso a Parigi, quel momento si comincia in cui non c'è più il fronte comune Tommaso e Bonaventura contro i maestri secolari, ma intuitivamente adesso si contrasta tra Tommaso e Bonaventura, e soprattutto c'è questa storia incredibile che soltanto negli ultimi anni sta emergendo dei rapporti sotterranei tra Tommaso e l'ambiente delle arti, e l'ambiente degli artisti, e l'ambiente dell'averoismo parigino. Infatti il riferimento appunto a opere uscite proprio, è un argomento questo di massima dell'attualità negli studi dell'Università di Parigi. Quindi non è soltanto il 77, la famosa condanna delle proposizioni averoistiche e tonistiche al tempo stesso, ma è il 70 che rappresenta la crisi. In quel momento lì è proprio sul piano dei contenuti che fallisce la politica scolastica universitaria della Chiesa, perché in quel momento lì non c'è più una teologia, ma cominciano a esserci più teologie che si scontrano proprio nel terreno parigino. E altro punto, lo sviluppo istituzionale dello studio parigino era fatto sì che, come a Bologna erano stati gli studenti stranieri ultramontani e supramontani a prendere in pugno politicamente le sorti dello studio, a Parigi sono i maestri di arti. Quindi anche quando si arriva all'organo dell'equilibrio di potere dell'Università di Parigi, gli artisti da soli sono molto più rappresentati delle facoltà maggiori, compresa la facoltà teologica. Quindi da Roma si riusciva sì a dirimere il conflitto tra secolari e regolari all'interno della facoltà teologica, che era bene o male un quadro su cui, pure con gli organizzamenti, i prezzi da pagare, si riesce a tenere insieme, ma non si riusciva naturalmente a interferire sul mondo degli artisti, che è un mondo che va completamente ormai per i fatti propri e che mette in discussione dall'interno la struttura dello studio parigino. Quindi, d'accordo, la facoltà teologica è unica, che può garantire i gradi, eccetera, eccetera, ma quando con i rapporti strettissimi tra la facoltà teologica e la facoltà di arti, come si fa per i rapporti tra Tommaso e gli artisti, che emergono così chiaramente nella famosa lettera degli artisti dopo la morte di Tommaso, che ne richiedono addirittura il corpo, lì c'è qualcosa che sfugge completamente. È stata una dinamica delle istituzioni che sfugge a quelle che erano i limiti della politica di intervento della Chiesa. Quindi ecco, questo punto, insomma, questo duplice punto della frantumazione ormai in scuole teologiche di quella che doveva essere la fonte di un'unica verità teologica per tutta la cristianità, e al tempo stesso, oltre che la lotta tra scuole teologiche, e il peso politico crescente che assistono. E che assolutamente non è legato al numero poi maggiore dei maestri di arti, ma quella che è stata la dinamica degli istituzioni, oltre che quella delle idee teologiche, diceva che il progetto fallisca su questo piano. Ed è per questa ragione che quando Alessandro Girotto scrive, nel 1981-1982, questi sono le date secondo Grumman, lo studium parigino in tale senso, che ho detto, è già in crisi. E direi che al di là di Alessandro Girotto, che abbiamo citato le grandi bolle di Gregorio IX per Alessandro Girotto, bisogna citare poi dopo Alessandro Girotto, rispetto a questo testo, che in fondo è così isolato in quella formulazione radicale dei tre poteri, bisogna citare il canto di Dante, che si dica degli strani. È un'altra serie di questa stessa idea, come di questa Parigi, che è l'unica fonte di verità per la cristianità, al di là e contro la realtà delle cose, perché quando Dante scrive ormai non se ne parla più di quella situazione che Gregorio IX aveva presagito nelle sue bolle, Dante raccoglie ancora un'ultima luce di questa stella che si era definitivamente spinta. Adesso brevissimamente, ancora due o quattro cinque minuti, e fino soltanto all'altro tema, le indico soltanto. Questo studio di Parigi però sempre in crisi, in questa visione così estrema, così radicale, di così grande impegno universale della cristianità, della cristianità, è una crisi che però non è che si consuma in un giorno, perché per vedere le ultime conclusioni bisogna arrivare proprio addirittura superiore delle scritte e dei consigli, dei grandi consigli dell'inizio, eccetera, eccetera, diciamo finito. E allora direi che l'ultimo conseguenza di quello che accade, la partenza degli studenti inglesi prima, la partenza degli studenti tedeschi, la nascita delle facoltà teologiche romane. Ora, questo tema della guerra, dell'importanza che la guerra dei 100 anni nelle vicende annesse connesse nella crisi di Parigi, c'è un bellissimo scritto di Bourdieu in quel volume di Stellano University of Politics, che rende molto bene, secondo me, questa vicenda, che comincia di Parigi, che ancora al tempo del film riesce a elaborare una linea unitaria in funzione di questo suo passato, di questa idea di essere l'unico centro di studio, anche se ormai ci sono tante facoltà teologiche che non attivano ogni secondo giorno, e poi invece a partire dal 1420 in poi non è altro che va al rimorchio del vincitore del momento, prima il partito borgognone, poi dopo la restaurazione dallo stesso, eccetera, fino a preoccuparsi soltanto di una difesa esclusiva dei propri interessi. Ora, secondo me, qual è il problema? È quello di distinguere la crisi dello studium di Parigi, intesa in quella maniera un po' forse con tutto quel sentimento ideologico che ho cercato seppure rapidamente di indicare, di distinguere questa crisi dello studium di Parigi come studium generale da quella che invece è la crisi dell'università medievale all'inizio del secolo XV. Io credo che si abbia torto a confondere una cosa con un'altra. Altra idea della crisi dello studium, così come indicata da Alessandro Di Rossi, quindi che dura, ripeto, che si consuma lentamente nel tempo, e altra è la crisi di trasformazione che coglie tutti gli studi generali, ormai sono tanti, di fondazione papale, di fondazione imperiale, come abbiamo visto stamattina, all'inizio soprattutto del secolo XV. E qui secondo me bisogna evitare il pregiudizio di carattere istituzionale di vedere la crisi degli studi esclusivamente nella crisi di ordinamenti tradizionali di tipo medievale. Quindi dire, lo studium entra in crisi soltanto perché vengono meno determinate garanzie di professore e di studenti. Secondo me, è secondario, bisogna ricordare che gli studi sono soprattutto professori di cultura, quindi molte di queste crisi sono crisi di trasformazione, non sono crisi di decadenza come nel caso dello studio di gestire degli studi in Parigi. Io avessi avuto tempo, ma non l'avrei avuto, io avrei identificato questa mia posizione facendo un bilancio di due situazioni parallele. La crisi dello studio di Praga, all'inizio dal 1409 in poi, cioè dopo l'espulsione dei maestri tedeschi, di vedere come questo studio fino a un certo punto guida la lotta uscita, che poi invece si trova a rimorchio, scende la parte perdente, e si arriva al punto, con fatto citato in centro da questo volume di University of Politics, nel saggio molto bello sull'Università di Praga, del Caminski, che finisce citando quando arrivano al Consiglio di Basilea, questi rappresentanti dell'Università di Praga, allora il diarista del Consiglio di Basilea disse il giorno dopo sono arrivati alcuni che si qualificavano come essere l'Università di Praga, ma di loro c'era un certo maestro cristiano che si chiamava il rettore dell'Università. Veramente è qualcosa che basta in pochi decenni, insomma, che non esista lontanamente più. Il caso invece di Padova è un caso di vera e propria trasformazione. Perché effettivamente lo studio di Padova, passato su Cosenessa nel 1406, subisce una crisi analoga a quella di Praga, cioè come Praga si nazionalizza nel momento che vanno via i maestri tedeschi, anche in Padova, passando da un regime municipale che era molto più adatto, sia pure sotto i signori Caravelli, a una apertura universale, invece viene inserito in uno Stato veneziano, e uno Stato veneziano vi sapete che tipo di Stato solidamente costruito era. Ora, il caso di Venezia è appunto completamente diverso, intanto perché Venezia è molto più prudente di quello che si può immaginare, io qui mi riferisco a uno scritto non ancora pubblicato, di cui ho potuto prendere visione per certi giorni ancora del Dito Granese del figlio dell'Università di Padova nel 400. E appunto dimostra che questa crisi istituzionale è una crisi di trasformazione, sostanzialmente molto lenta, perché soltanto dopo la guerra imperiale, dopo il 1509, la ripresa dopo il 1509, dopo il 1527, Venezia tra i famosi riformatori del Sirio, per lungo tempo Padova, nonostante la crisi di questo suo aspetto municipale, di determinate garanzie, non tanto degli studenti quanto dei professori, ma neanche più tanto come si potrebbe immaginare, che riesce per un periodo d'oro, perché l'ultima istituzione del Sirio di Padova del 400 è dal punto di vista culturale il periodo d'oro del Sirio Padovano. E quindi ripeto come ultimo punto, perché questo non confondere appunto l'idea della crisi dell'università come terzo potere, che poi è una crisi che si risolve soprattutto nella crisi dello studio di Parigi, cioè l'incarnazione di questa idea dell'università, e invece le molte crisi istituzionali degli studi generali, a crisi che possono essere anche accompagnate invece da dei prodigiosi risvegli sotto il profilo culturale, che è poi quello che conta trattandosi di un'università che va valutata come produttrice di cultura e di politica. Credo che saremo tutti grati al professor Arnaldi per questo suo giro del vento così largo, che partendo da una puntualizzazione ancora della abita è arrivata alla seconda rinascita, diremo noi, alla seconda nascita di Padova, passando attraverso appena Parigi e se volete Prana. Dopodiché prego il professor Ericelli, aveva la cortesia di sintetizzare nelle linee essenziali per una zu Anfang gesagt, da wurde drei Themen behandelt. Das erste war eine Einleitung, in der er generell über die Wichtigkeit und auch sein eigenes Interesse an der Universitätsgeschichte berichten werde. Ich werde davon nur verhältnismäßig wenig wiedergeben. Das zweite sei dann eine Ausführung über die Idee und Wirklichkeit des Studium Generale. Und das war der wesentliche, auch zeitlich sicher eine Stunde umfassende Zeit dieses Vortrags. Und das dritte ist dann das, was er leider aus Zeitnot nur ganz kurz zitieren konnte und was ich auch dann wahrscheinlich nur sehr kurz und nur so, wie ich es verstanden habe, wiedergeben kann, denn da war vieles Nichtgesagte mitgedacht und das Nichtgesagte habe ich aber nicht gehört und ihre Gedanken kann ich Ihnen alle ohne weiteres mitvollziehen. Um mit dem ersten zu beginnen. Er hat darauf hingewiesen, wie wichtig die Universitätsgeschichte eigentlich für diese Historiker seid, die sich für weit mehr als Universitätsgeschichte interessieren. Und hat dafür Beispiele genannt. Beispiele, ein negatives, das heißt eine Arbeit, in der eine Einbeziehung von Universitätsgeschichte sinnvoll gewesen wäre, eine andere, die zeigt lediglich die ganz handfeste Verarbeitung von Universitätsgeschichte, den Fall waren die Überlieferung der Werke des Vaters in deutschen Universitäten, die handfester zur Geistesgeschichte beitragen kann. Die Universitätsgeschichte ist deshalb wichtig, weil man eigentlich nirgendwo Kulturgeschichte oder Geistesgeschichte so gut mit Verfassungs- oder Institutionengeschichte verbinden kann und muss, wie in der Universitätsgeschichte. Und deshalb seien, weil diese Verbindung in der Universitätsgeschichte so nötig und nützlich ist, seien die Rechtsgeschäfte so groß, in Universitätsgeschichte und Wissenschaft in Stockholm, das für uns vor anderen, weil der Rechtshistoriker, der sich mit der Geschichte der Rechtswissenschaft und der Rechtsstudien beschäftigt, notwendig zu den Studien aus einer beruflichen Deformation auch auf die Institutionen, in denen sich das Abspiel achtet, weil er von vornherein den Blick auf Institutionen und Rechtseinrichtungen hat. Vielen wurde für ein Erneuerer, und das kann man ja eigentlich wirklich nicht vergeben sein, das auffallende Fehlen von etwas Studien über die Geschichte des Abschlussunterrichts in Bologna. Wenn man vergleicht, dass man über den Unterricht der Rechtswissenschaft in Bologna wissen und lesen kann, überlegt, was man über die Geschichte des Unterrichts in den 5. also in den Abschluss in Bologna im 12. Jahrhundert finden kann, dann ist das schon auffällig. Das Verhältnis in einem Buch von Arandelis über die Geschichte der Wien, war es für Bologna nicht vergleichen, als auch die Leute davon geeignet hat. Es ist aber auch in Paris so, dass man unendlich viel Information über das Theologiestudium in Paris finden kann, dass man aber sehr viel weniger finden kann über das, was in der Artikel Kategorie in Paris eigentlich zu tun ist. Eine Gefahr in der Universitätsgeschichte ist Herr Arnaldi darin, dass derjenige, der fürchte, sich in die Details einer Universität zu verlieren, aus dieser Stille leicht in die Verrückte geraten kann, dass er dann dafür abstrahiert und Dinge da über alle Universitäten denken wollen und mit einem gewissen Vorbehalt rechnet er hier dazu den Auftrag von Grundmann, der immer wieder im Laufe des Vortrags zitiert worden ist, und als ihn auch hier schon nehmen muss, über unsere Imperium, das der Wurzeln und Studien, und ich will das gleich jetzt an dieser Stelle sozusagen weiter ausführen, hier dann Arnaldi, ist diese Gleichsetzung von Imperium, das der Wurzeln und Studien, im Sinne der drei großen Prozenten des Mittelalters, hier das Jahr 1881-82, in dem Alexander von Rot diese Sache in seinem Memoriale dargestellt hat, bereits anachronisch vorbei. Damals schon war das nicht mehr so gewesen, und wenn überhaupt, dann habe es in Bezug auf Studien nur seit der Zeitbürger des 9. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, das heißt, um es genauer zu sagen, circa 20 Jahre für Paris bedeuten und für keine anderen Leben. Dies konzentriert und überspricht, was über Alexander von Rot im Laufe des Vortrags nach und nach immer wieder vor. Nun aber der wichtigste zweite Punkt. Um von dem Studium Generales zu handeln, bedarf es einer Definition. Und Arnaldi ist ausgegangen von Giuseppe Arnini, die Concetto di Studium Generale von 1942, einen Aufsatz, den ich leider nicht kenne, von dem er aber gesagt hat, dass Stellen nicht so in seinem großen Literatur über sich für den Stockholmer Historiker Kongress. Arnini einfach nicht richtig wiedergegeben und auch nicht richtig verstanden hat. Für Arnini sei das Studium Generale eigentlich nur ein Studium für Juristen, das heißt für das Jus Commune, in diesem Fall also das römische Recht, wenn das noch das kanonische, also über den Partikularrechten, die anders kritisiert werden. Und nun kann Arnini Studie, die er mit vielen Einzelheiten begründet hat und die ich jetzt hier zusammenfasse. Bologna ist niemals diese Rolle eines Studium Generale für die Juristen zugedacht gewesen. Jedenfalls nicht von den universalen Gewalten, dem Kaiser oder dem Papst. Und es ist ihm auch niemals zugekommen, diese Rolle. Das heißt, Bologna hat niemals ein solches Monopol der Juristenausbildung gehabt, nehme ich vorweg, wie Paris es längere Zeit für die Ausbildung oder jedenfalls die Promotion von Theologen gehabt hat. Und Anand hat die Beziehung der Kaiser zu Bolognas behandelt und darauf hingewiesen, dass freundschaftliche und gegnerische Dinge unweigerlich vorkommen. Beispielsweise die Konstitution Habita 1158 wird gefolgt 1159 von dem Beginn der Differenzen zwischen Bologna und dem Kaiser, schon in Sigma und in der Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser und dem Lombardenbund steht Bologna auf der Seite der Gegner der Kaiser. Und das heißt, es kommt 1167 im Lombardenbund bei, aber da Alexander der Dritte von Bologna ist, das ist in Sigma schon von 1159 an, eher auf Seiten Alexander des Dritten als auf Seiten der kaiserlichen Kandidaten. Ich nehme jetzt nur die Punkte, die dann noch für spätere mitgegeben. 1220 ist Friedrich II. In Bologna und nach dem, das heißt, dem Termin aus dem November oder Anfang Dezember 1220, nach dem Erlass der Gesetze, der Krönungsgesetze in der Friedrichsbasilika, hat er die Gesetze an die Universität Bologna geschickt, womit die Universität Bologna eine Funktion in Bezug auf die Publikation von Gesetzen bekommen hat. Nicht sicher ist, ob Mantel oder die Arnaldis lieber glauben möchte, Friedrich II. Die neuen Aristoteles-Übersetzungen nach Bologna geschickt hat, die dort in der Mitte des 20. Jahrhunderts angekommen sind. Beklagen wird sich, dass es keine Untersuchung über die Schul- und Universitätspolitik für die Beschreibung gibt, weder von Deutschland noch von der italienischen Seite noch von sonst jemand. Die Gründung von Neapel hatte sich nicht gegen Bologna gerichtet. Es sei aber auch nicht der Versuch gewesen, ein zweites Bologna, sozusagen ein Ersatz-Bologna für das neapolitanische Reich zu gründen, sondern es ging eigentlich nur um Ausbildung und Ausbildung für den Nachwuchs für die Reichsverwaltung des Königreichs Sizilien im eigenen Lande. Bedauerlich ist, dass von der Urkunde, der Gründungsurkunde für Neapel, es keine kritische Edition gibt. Darum ist gleich so wenig zu erklären wie nach Arnaldin. In einer Hinsicht meint er, sei diese Gründung Neapel interessant. Wenn man nämlich den Ort ansieht, an dem die Konstitution Habita im Codex Justinian, das heißt Authentica, eingesetzt ist, dann ist das die Stelle Lucilius pro Pace, also Titel Lucilius pro Pace, der davon handelt, dass kein Sohn für seinen Vater haftbar gemacht werden kann und Anspruch genommen werden kann. Dieses Faktum deutet darauf hin, dass mindestens bei der Inserierung in den Codex der Teil, der von dem Verbot von Rapazalien gegen die Magister und Solaren trifft, als der rechtsrelevanteste angesehen worden ist. In Neapel dagegen steht am Ende der Gründungsurkunde, dass wenn die Söhne nicht rechtzeitig zum Studium erscheinen, die Väter haftbar gemacht werden. Also Fili nicht pro Pater, aber in diesem Fall Pater pro Fili. Ich übergehe jetzt, dass die Relativierung des Privilegiums für Julianum in seiner Bedeutung betraf, obwohl das sehr überzeugend war, und sage etwas über die Beziehung der Kirche zu Bologna. 1219 gibt es ein Privileg von Julius III., welches von der Licentia Docendi in Bologna steht. Die große Frage, besteht es von Julius III. Ein bereits vorhandene Gewohnheit oder führt er eine noch nicht vorhandene Gewohnheit oder ein noch nicht vorhandenes Recht neu ein? Herr Arnaldi hat nicht das entweder oder entschieden, aber gesagt, man müsse sehr vorsichtig sein, wenn man zu viel Vorgeschichte aus dieser Rolle rekonstruieren wolle. Die Lizenz habe ich nicht vergessen, nicht für das letzte Jahr, hat Nikolaus IV. An Bologna studiert, 1991-1992. Damals gab es diese Zinsform, es handelt sich da bestimmt um eine Betätigung, aber es handelt sich keineswegs etwa um eine Privilegierung Bolognas im Sinne eines Studium Generale Unicum, denn gleichzeitig gibt Nikolaus IV. Die Lizenz der Regierungsrätin, zum Beispiel durch kanonische Recht auch nach Paris und andere. In Bezug auf die Gründen wird betont, dass schon seit Alexander III. Gründen ohne Residenzpflicht an zwei englische Soldaten in Bologna gegeben worden sind. Einmal wieder, dass schön und gut viele Töchter an weiteren Gründen an Bologna gegeben haben. Aber viel mehr Gründen an Pariser Studenten auch berichtet. Ein wichtiger Punkt ist der Punkt der Publikation von Gesetzen. Hier ist völlig überzeugend dargelegt, dass die Kirche auf der Tat hier früher Bologna instrumentalisiert oder wie man es ausdrücken soll, als der Kaiser. Zwar ist Habita 1858 das früheste Datum, aber es heißt nur, die soll in den Todes aufgenommen werden. Auch die Gründungsgesetze, anders ist es mit den Gründungsgesetzen von Philipp II., da heißt es, soll in den Todes aufgenommen, untersucht, studiert und gelehrt werden. Das heißt also, es muss in den Universitätsgeschichten die rechtlichen Parteien sein. Und das hat es schon 10 Jahre vorher. Der Dritte mit der Kompilatio Cunica, dem letzten kodifizierten Vorläufer der Dekretalenregel des 9. getan, das steht dann auch Gregor der 9. und seine Nachfolger mit den Dekretalen. Und während Heinrich der 7. sein Gründungsgesetz wiederum nur nach Bologna bis in der Bitte ist, um das Recht zu aufzunehmen und zu in der sogenannte Volumen, die sich dann aufgenommen hat. Und ein anderes ist, dass Friedrich der Dritte 1662 Bologna aufgefordert hat, die Libri Traesorum, die längst in Bologna Lehrgegenstand waren, nicht zum Bestandteil nicht nur des Staatsbegriffes Zivil, sondern auch des Unterrichts zu machen. Einzige teilweise Verfügung, die so ausdrücklich und als eine Art Gesetzgebung hat, allerdings sehr kurzfristig aufgefasst werden können. Hinsichtlich der schriftlichen Diktatoren, die nach Bologna geschickt werden, zur Publikation, zur Promulgation, ist nun aber sehr deutlich, dass Bologna nicht die einzige Universität ist, dass Padua die gleichen Dekretalensammlungen ebenfalls über ganz kurz mit der gleichen Aufforderung, dass sie auch an die kanonistische Fakultät in Paris geschickt wurden, sodass also, obwohl die Päpste, die Universität konsistenter zur Gesetzgebung, seiner Spezifikation in der Gesetzgebung verwenden, trotzdem Bologna dabei keine Monopolstellung oder antipathische Rolle spielt. Nun geht es überhaupt über die Schulpolitik oder Universitätspolitik verfolgt die nötig ist, damit also der Rede dann von Paris sein kann. Und den Vater Vicer, ich bin ihm auch das nicht, ich habe den Namen jetzt richtig mitbekommen, zitieren, hat Arnaldi ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Politik der Päpste in Bezug auf Universität und Unterricht im 13. Jahrhundert ist das Gegenteil von dem, was in Ansätzen auf dem 3. und ausdrücklich auf dem 4. Lateranskonzil beschlossen und verabschiedet worden ist. Nämlich, anders als die dort gemeinte, beabsichtigte und niemals wirklich gewordene Dezentralisation der theologischen Studien in allen Provinzen, das heißt in allen 4. Provinzen, haben die Päpste die Zentralisation, die zentrale Konzentration der theologischen Studien in Paris gewünscht. Und ein wirkliches Beispiel dafür ist Herr Amaldi schon in der berühmten Folie Super Speculum von Honoré de Bretton, die das Rechtsstudium des weltlichen Rechts war in Paris verbietet, aber umso deutlicher die Bedeutung Paris für die anderen Disziplinen, insbesondere die Theologie, hervorlegt. Von 1617 hat Honoré de Bretton die Theologie von Paris aufgefordert, nach Toulouse oder in die Umgebung zu gehen, um den Dominikanern dort bei der Predigt und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Töchtern zu helfen. Möglicherweise ist das Spekulant eine Konsequenz davon, und hier fühle ich hinzu, dass in einem sehr viel umstrittenen Buch, das in unserem Institut erschienen ist, die Behauptung aufgestellt ist, die meiner Ansicht nach sehr zu überlegen ist, dass dieser Spekulant aufgrund einer Geschichte des Heiligen Dominikus verlassen worden ist und wahrscheinlich von ihm oder seinem Vertreter auf dem Wesentlichen formuliert ist. Also kein aus irgendwelcher festlicher Vollmacht oder Initiative verlassene Urkunde, sondern eine aufgrund der Not gegenüber den Heiligensern erfüllte Urkunde derer, die mit der Auseinandersetzung der Heiligensern nicht fertig wurden. Jetzt Gregor des 19. Jahrhunderts für Paris zeigen eigentlich Paris und seine Theologie in der Stellung, wie Alexander von Rot sie gesehen hat. Und nun folgt etwas, was ich nur sehr kurz wiedergeben kann, wenn ich das wieder nicht finde. In Toulouse sei 1229 keine Universität gewesen. Es gebe auch in Toulouse 1229 ab 1229 keine theologische Fakultät. Aber es gibt schon vor 1229 ein Studium des Dominikanerordens, in dem vorwiegend Theologie betrieben wird. Zur Verstärkung der Arbeit in diesem Studium werden Leute, die bei der Pariser Krise von 1229 ohnehin die Stadt verlassen haben, angelockt nach Toulouse, um dort zu arbeiten und zu helfen. Aber der erste Dominikaner Magister in Paris findet sich 1230 und kommt aus Toulouse. Das heißt also, das Ordensstudium in Toulouse steht in einem engen Zusammenhang mit der Fakultät in Paris, wo Amaldi, die seine Schülerfreundin verteidigt wird, auch, Doktorpromotionen in Theologie finden im 13. Jahrhundert nur in Paris statt, weil nur in Paris im 13. Jahrhundert eine theologische Fakultät gibt. Es gibt in Paris neben der theologischen Fakultät die Ordensstudien, den Saint-Jacques, das Dominikanerstudium, das Franziskanerstudium, die Studien der anderen Orden. Es gibt den Streit zwischen den Magistern der theologischen Fakultät und den Lehrern dieser Ordensstudien. Und es gibt, und das war für Amaldi der Grund, warum er das Jahr 1277 als Beginn einer neuen Epoche über etwas von dort vorgeschlagen war, 1290 angehen wollte. Wenn um 1250 die Fronten klar sind, einerseits die Ordensmagister der Ordensstudien, andererseits die Magister der Universität, der Theologischen Fakultät, dann ist seit 1270 zum ersten Mal klar, dass die Unterscheidung nicht mehr nach äußeren Kriterien ist, sondern dass es verschiedene theologische Schulen gibt, verschiedene Theologien. Etwas, was mit der Vorstellung von der einen theologischen Wahrheit, nach der die Theologie gegeben hat, nur sehr schwer in Verbindung zu bringen war. Der Amaldi ist das der Beginn der Krise der Universität Paris, die sich allerdings gleich im 15. Jahrhundert hingezogen hat. Und damit gehe ich jetzt natürlich sämtlich verkürzt habe, was er gesagt hat, zu dem kurzen dritten Punkt über. Die endgültige Krise, in die Paris geraten ist, durch 100-jährigen Krieg, Schisma und Konfusion, Abwanderung von Magistern und Scholaren, sei im Grunde genommen als dann zu sehen, wo sie überhaupt kein Inhalt sind. Anlass mehr haben, sondern wo es letztlich nur noch geht, um die Wahrung des Gesichtsstandes, das heißt um die Verteidigung der materiellen Interessen ab etwa 1420. eine ganz wichtige Frage, allerdings, die über mehr als 100 Jahre hinzieht, ist die Frage, die deutlich deutlich wird mit der Gründung theologischer Fakultäten an anderen Universitäten, die sind von Tag privilegiert werden. Die haben sie in ihrer Liste von Fakultät in die Hand gegeben, Bologna, Padua und ich weiß nicht mehr noch. Das heißt, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, seither ist Paris als Gaststudium Generale für Theologie nicht mehr anzusehen. Und das ist natürlich die schlimmste Einbuße, die Paris gegenüber den anderen hat erleben können. Der Analyser, man muss unterscheiden, und er hätte es gern parallel dargestellt und ausgeführt. Ich kann es nicht ausführen, das war nicht krank. Man muss unterscheiden zwischen der These der Universität Paris, die ihren Höhepunkt am Anfang des 15. Jahrhunderts erreicht hat, und der These anderer Universitäten der gleichen Zeit, die vielfach auch gerade in den Anfang des 15. Jahrhunderts tätig. Bei den anderen Universitäten handelt es sich mehr um Thesen, sozusagen des inneren Wandels, man könnte modern ausdrücken, Reformthesen, die durch Wechsel von Professoren, durch Wechsel auf Berater, wie etwa in Padua, Wechsel von einer städtischen zu einer, ja, von einer städtischen Universität zu einer Universität, die damals festregierten Status, wir haben ja darüber auch mal schon gesprochen, dass also diese Krisen etwas anders sind, insbesondere, dass sie führen, dass die Inhalte sich ändern, und dass also die Universitäten nicht so sehr sich als Institutionen wandeln oder in Krise geraten, sondern als Produzenten von Kultur, deren Produkte sich ändern und damit gelegentlich auch die Produktionsmittel und Produktionsvornehmen. Und das auffallendste Beispiel dafür bietet für die Padua, dass nach einer Krise zu Beginn des 15. Jahrhunderts seine höchste Blüte am Ende im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts erreicht, etwa 1670 bis 1700. Ich hoffe, es war nicht come giunge il nostro quarto d'ora di intervallo e poi la discussione. Discussione che, se io non mi sbaglio, dovrebbe essere estremamente importante e interessante. Io, c'è il professor Prodi che prima di partire vuole venire a darci un saluto e lo vediamo. Thank you. Particolari che si possono essere già ottenuti. Allora, se volete cominciare con introdurre problemi e domande possibilmente di ordine particolare. Non posso molto particolare anche per capire da un punto di vista, anche per fare un po' di guarda, io veramente non ne so molto, conosco quelle che sono le notizie delle fonti, che sono piuttosto scarse, ma mi manca proprio il visto a fondo, una cosa che si afferma e che direi che avrebbe considerata nel contesto di tutta la politica universitaria di Federico II. Ecco, certamente direi questa, che mentre Napoli risponde a questa idea della Università del Regno, il problema di Siena è visto soprattutto in funzione del disturbo del Bologna, perché è ancora più evidente l'elemento del disturbo del Bologna. Se uno poi pensa che Siena è una sede, per esempio, in cui va la migrazione del 1321, che è una migrazione da Bologna molto importante, quella che in cui poi in parte approfitta parte la stessa. Anche lì c'è un episodio severo, come Arezzo era stato un altro episodio di migrazione bolognese nel 1815. Quindi direi che l'episodio di Siena era la scelta più fatta, anche se uno pensa alla localizzazione, se Siena sulla Cassia, sulla via Francisca, sulla via del 15, anche una scelta di localizzazione che dà esperienza, quindi non è legata, io credo, come quella di Napoli, all'idea del regno, non è legata sicuramente dopo una questione puramente semplicemente di disturbo del Bologna. Come io non ho ancora, direi che questo punto è un altro punto che non ho ancora accennato, che è la questione delle studi in curie, sono due punti che intendo approfondire. Questa l'ho citato, l'altra non l'ho ancora citato, e sono ancora presenti da vicino della mia storia. È uno dei miei progetti, soprattutto dopo che ho visto che le ragazzine hanno studiato questo argomento, che si studia non è stato ritrovato, sapevo che ne aveva parlato, quindi bisognerà un po' rifare quello che è andato perduto e aveva fatto vedere gli studi. Chiedo se puoi ancora aggiungere qualche chiarimento ulteriore per quello che riguarda il problema e il concetto di studio generale che non gli è del tutto chiaro. La definizione, io sono partito praticamente dalla definizione di termini, cioè di definizione che secondo cui il concetto di studio in generale è esemplificato su quello di un comune. Come l'us comune sta a vista particolare, così studio in generale sta a studio in particolare. Io ho preso come punto di partenza questo di vedere di origine. Soltanto che, e quindi il concetto, diciamo, nasce, e quindi bisogna distinguere tra il concetto e l'espressione, secondo me. Il concetto nasce in base alla lunga tradizione esegetica della Costituzione Omnem di Bicignano, perché è chiaro che è intorno proprio a questa liceità di insegnare il diritto in alcune città e in altre no, questo, il far vedere l'interesse che ha l'intero nei confronti delle scuole, che si arriva alla definizione di questo concetto, che si attira l'attenzione in questa direzione. Ora, naturalmente il problema fondamentale che c'è è quello che noi abbiamo da una parte un tipo di teorizzazione che sembrerebbe portare all'esistenza di uno studio, di un solo studio in generale, e dall'altra parte ci troviamo invece alla proliferazione degli studi generali, per cui a partire da un certo momento in avanti studio generali i studi generali diventano tanti, però se visto nella sua origine concettuale questo termine sembrerebbe corrispondere a un solo studium, non alla possibilità invece di essere che studium, ma perlomeno partendo da questo tipo di costruzione che viene fatta dall'Ermino. Ora, la mia ipotesi è che questa idea di uno studium generale che non trova realizzazione nel campo degli studi del diritto, perché l'impero che potrebbe essere interessato in questa direzione non manifesta, invece non elabora una politica in questo senso, viene invece messa in pratica dal papato per quello che riguarda la teologia. E quindi questo concetto di studium generale che nel campo degli studi di diritto finisce col tradursi in una realtà di una proliferazione di studio, nel campo invece della teologia riacquista per merito dell'iniziativa del papato, in particolare di Gregorio IX, questa singolarità di attuazione che sembra presente nell'origine del termine stesso. Ma ripeto, la confusione può nascere, io capisco che la cosa è abbastanza complicata, tra quello che è l'idea di studio in generale, che comporterebbe che di studio in generale ce ne fosse uno solo, e invece quella che poi è la realtà, perché studio in generale diventa un'etichetta che viene attribuita a tanti studi, e quindi non c'è più l'incompatibilità tra l'esistenza di più studi generali, che invece sembrerebbe esserci se uno accetta questo concetto nella sua radicalità originaria. Questo direi che è il... Io comunque sono partito dalla definizione di Ermini, che secondo me è normalmente disattesa, perché si intende Ermini in una maniera sbagliata. Non è che sia molto chiaro il fatto di Ermini, quindi insomma io l'ho pieno di una serie di citazioni talvolta contraddittorie, insomma è molto complicato, un testo ho avuto molta fortuna di essere scritto, ma quindi io me ne sono servito soprattutto, diciamo, come punto di riferimento per la politica scolastica del papato. Insomma, io ho preso come un concetto nato in casa di diritto civile e che in questa casa non ha trovato attuazione, perlomeno nella sua formulazione rigida originaria, e invece l'ho visto applicato in un altro ambito di studi, l'ambito di studi teologici, perché c'è stata una precisa volontà da parte del papato di fare così. Quindi io credo che questo studio in generale di questa scienza così radicale possa essere proprio il modello a cui si è ispirata la politica papale, o perlomeno che è poi difficile dire se è venuto prima o se è venuto dopo. Insomma, questo è un problema molto di delicato di sfumature. Insomma, caratterizza secondo me bene le due politiche, quella del papato e quella dell'impero, nei confronti dell'università e forse del secolo XV. Der Ausgang von Ermini bedeutet, dass man das Ermini folgt hier aufgrund der Konstitution Omnen, die also diesen Rechtsunterricht in wenigen königlichen Städten vorbehält, der Konstitution Justinian, von der schon mehrfach die Rede war, analog zu dem einen gemeinsamen Recht, dass den vielen partikularen Rechten gegenübersteht, ein Studium Generale, das vielen partikularen Studia gegenübersteht, fordert, obwohl die Wirklichkeit zeigt, dass es ein solches Studium Generale mit Monopolcharakter für die Rechtswissenschaften gegeben hat. Arnaldi aber hat sich dieses Modell umso lieber bedient, weil er meint, für seine Schilderung der päpstlichen Universitätspolitik in Bezug auf Theologie sei es besonders gut geeignet, denn in Paris, in der theologischen Fakultät, da sei tatsächlich jahrzehntelang, ich höre das jetzt ein bisschen anders aus, als ihr gesagt Semester ein Studium Generale allein für Theologie gewesen, dem kein anderes Studium Generale entgegengestanden hätte, während bei den Juristen das Wort Studium Generale schließlich nur noch das heißt, was Universität heute heißt, und was ich also gut im Plural sehen kann, würde für die Theologen in Paris dieser Idealtypus Studium Generale als einziger Ort, wo die eine Lehre gelehrt wird, stimmen. Ja, ich glaube, das ist das. Ist das. Lento, lancia. La prima è di facile risposta, la seconda è di difficilissima risposta. La prima è di facile risposta in questo senso, la testimonianza citata da Marangoni, per cui nel contrasto tra gli studenti padovani che intendono emigrare a Vercelli, nel comune di Vercelli, è citata tra i vari insegnamenti anche l'insegnamento di geologia. Sulla base di questa notizia, i due studiosi che hanno studiato la facoltà di geologia di Padova hanno voluto anticipare l'esistenza di uno studio di geologia a Padova fuori dei conventi dei militanti, dicendo se gli studenti di Vercelli si prevede l'istituzione dell'insegnamento di geologia, vuol dire che questo insegnamento di geologia c'era anche nello studio di partenza, cioè in Padova. Ora, questa testimonianza in questo senso è inaccettabile. Io credo che molti sbagli che sono stati fatti per la storia delle università nel secolo XIII sono stati basati sul fatto di essersi serviti di testimonianze relative all'università di arrivo per giudicare com'era la situazione dell'università di partenza, non rendendosi conto che il trambusto, diciamo, dello spostamento portava evidentemente a un cambiamento di situazione, quindi è impossibile. Sulla base dell'Università di Vicenza del 1204 prevede stabilire com'era Bologna in quel momento, su quella di Padova, sulla migrazione di Padova del 1222, stabilire com'era la stazione di partenza, cioè Bologna. Lo stesso vale per la migrazione tra Padova e Vercelli del 1228. Ora, quello che però mi sembra, che escluso che l'insegnamento fosse a Padova, perlomeno non dimostrato che fosse a Padova, è quello che riguarda le stelle. Io credo che nel momento in cui un comune decideva di attirare degli studenti di un'altra università disponibile a un trasferimento, cercava di offrire tutte le domande possibili, nello stesso modo che Federico II disse che nella sua Napoli si insegnerà di tutto, insomma. Cioè, in queste creazioni iniziali dell'università, a differenza delle università che nascevano da situazioni di fatto, che nascevano, diciamo così, spontaneamente, quando ci si metteva a tavolino si diceva che tutto, cioè si cercava di assicurare la completezza, perlomeno sulla carta. Ma naturalmente il fatto che ci fosse un insegnamento di ideologia non vuol dire affatto che, anche se questo insegnamento era fuori della scuola dei domenicani, che in quel momento a Pensieri non c'è ancora, naturalmente, nel 1228, ma poteva essere benissimo presso la diocesi di insegnamenti di teologia, può essere che il comune intervenisse in questo insegnamento, ma non bastava certo un professore di teologia per fare una facoltà di teologia. Quindi il problema dei gradi è un problema che non rimaneva lo stesso risolto. Per quello che riguarda Vercelli è curioso che la prima volta che noi troviamo l'espressione studi in generale la troviamo negli statuti del comune di Vercelli. Stato mi è venuto adesso l'occasione di dirlo, è la prima testimonianza, non per quello che riguarda il concetto, ma per quello che invece ha questa genesi, secondo me, più complicata, ma la parola, l'espressione c'è proprio per Vercelli. Quello poi che riguarda la seconda domanda è uno dei punti dolenti di tutta la storia dell'università, è sapere l'insegnamento delle arti, distinguere l'insegnamento delle arti, quindi un insegnamento puramente propedeutico, e quando invece è un insegnamento che assista, anche se le arti rimangono una facoltà minore, diciamo, assista di piena dignità, e lì dipende naturalmente da situazioni locali. Ma direi che il grosso interrogativo che c'è relativamente alla storia universitaria del secolo XIII è proprio la facoltà delle arti. Questi artisti ci sono e non ci sono, insomma, perché naturalmente hanno una situazione di sviluppo istituzionale molto minore di quella dei giuristi a Bologna, non c'è a Padova, secondo me, lo stesso. E quindi uno sente che ci sono, ne avverte la presenza, ma non riesce a coglierli, insomma, i statuti in quelle che sono le loro. Naturalmente la distinzione che si fa, per esempio, oggi stesso, tra la facoltà di lettere e la facoltà di tutte, la più vicina alla scuola media superiore, insomma. La stessa cosa era per la facoltà delle arti. La facoltà delle arti è da una parte una facoltà propedeutica, e nello stesso tempo è una facoltà che invece raggiunge in alcuni momenti, per la presenza di certi maestri, una dignità di studi superiori, insomma. E questa cosa viene talvolta istituzionalizzata e talvolta non viene istituzionalizzata. Quindi è il grosso interrogativo, secondo me, è proprio questo degli artisti, insomma, sapere perché la zona più mossa, la zona più forse più viva, secondo me, insomma, è uno sfondo che uno intravede più di quanto non riesca a coglierlo, per il secolo XIII, in realtà istituzionali del futuro. Ja, von dem Manifest der Stadt Vercelli stellt sich also die Paduaner Magister und Solaren anlocken sollte, in dem unter anderem auch das mögliche Lehren und Studieren der Theologie genannt wird. Herr Arnaldi antwortet darauf, ich muss das hier kurz machen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Theologie konnte natürlich überall unterrichtet werden. Aber ein Theologielehrer macht noch keine Fakultät und der entscheidende Punkt für ihn ist die Fakultät, die mit ihrem Recht zur Promotion. Und das hat im 13. Jahrhundert im Fach Theologie nur die Universität Paris gehabt, auch wenn möglicherweise anderswo, zum Beispiel auch in bischöflichen Schulen Theologie gelehrt worden ist und wieder als Rat gelehrt worden ist. Die andere Frage, die ist sehr viel heikler. Nämlich die Frage, warum ist in Paris frühzeitig in der Artistenfakultät die ganze sozusagen Vorbildung der Studenten schon organisiert und in die Universität integriert, während andere auch die Arte gelehrt werden oder nicht gelehrt werden, ohne dass man viel darüber weiß. Hernani sagt dabei, dass eigentlich das schlimmste Problem der Universitätsgeschichte des 13. Jahrhunderts, dass man so wenig über die Arte wisse, an bestimmten Orten, er hat dabei sicher Paris im Auge gehabt, sei in der Artistischen Fakultät sowohl das, was wir heute die Schulbildung nennen, also Lateinunterricht und alles, was nötig ist für Studieren, eben auch die Arte, ebenso unterrichtet wurden, wie ganz besonders guter Magister und Professoren auch höhere und höchste Studien im Bereich dessen, was wir heute Philosophische Fakultät nennen würden, die der Schule in ihrer die ihr Lehrangebot an ähnlichen Gesicht von allen heutigen Universitätsfakultäten, dass also auch das sozusagen höhere Schule und philosophische Fakultät in dieser artistischen Fakultät verbunden waren. Die Organisation und die Art des Unterrichts in AP an anderen Orten ist eben bisher nur sehr wenig bekannt. Und als Sie sagten, dass die Arte in Bologna auch zur Vorbereitung auf das Juristenstudium dienten, hat Herr Colliva mächtig mit dem Kopf geschüttelt, weil eben diese enge Verbindung zwischen dem der Vorbildung in dem Arte und dem Rechtsstudium in den juristischen Fakultäten nicht für Bologna in der Enge besteht, wie etwa in Paris für die Vorbildung der Studenten der drei höheren Fakultäten, die alle Magistri Artium sein. Ich habe eine Frage zum Wandel des Begriffes in den Generalen. Drei Bemerkungen, ganz kurz. Erstens, in der Kirchenverfassung, also herkömmlichen Kirchenverfassung vor Entstehung der Universitäten, war der Begriff Generalen oder Generalen geheimer. Da gibt es den Generalen von vielen Generalen. Ein klassisches Satz. Dieser Begriff beinhaltet zentrales Organ. Auch unterrichten mehrere zentrale Organe für mehrere Konstellationen oder auch. Zweite Bemerkung. In Kalinischen Definitionen des 16. Jahrhunderts kann ein Text in der Theorie orientieren. Das ist es. Sind drei Dinge in meiner Erinnerung. Drei Dinge zu sagen. Das ist die Generalität. Es ist eine Form auf Physiker. Es ist Physiker. Eine Konferenz der Polarien. Und hier ist das Versammlungsort hier und eben ein Studium-Bildungswerken, das kommt aus der Bildungstheorie des 20. Jahrhunderts, also der Bildungstheorie. Bemerkung 3. Seit dem 13. Jahrhundert findet man eigentlich in der Bildungskraft, in der Bildungskraft. Eine Synonymität von drei Begriffen. Synonyma. Drei Begriffe sind Synonyme. Generalis, Dolentis, Subtis. Meine Frage. Es ist nun wirklich eine Frage. Vielleicht mehr als ich. Hat sich in Paris im 13. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Bettelorchester, der Begriff der Öffentlichkeit, der öffentlichen Lehre, vielleicht nicht den Begriff für den General verbinden. Begründung dafür bekam sich nach Thomas von Aquin in seiner Rückkommt verteilt das öffentliche Lehren der Bettelordensmitglieder, also der Dominikaner, an der Universität Paris, also die Öffentlichkeit der Lehre für den Ordensbruder, das heißt auch den Erwerb der Gnade. das war meine Frage, nach dem Wandel des Gerätes Studio General von 12. und 13. Jahrhundert, Studio General Zentral, Organ, und nun Studio General, das eine Schule studiert. La domanda della Faubert era la prima in connessione con quella che è l'organizzazione della istituzionale della Chiesa, dove il termine generale torna più volte, consiglio generale, capitolo in generale, e indica, diciamo così, un fenomeno di centralizzazione anche nel momento stesso in cui ammette una possibilità plurima di centralizzazione, e che si è poi venuta evolvendo nel concetto di studi in generale, dove i punti fondamentali sono la scuola pubblica, la consulentia scolarium, la consulentia scolarium. Inoltre, poi tra il secolo XIII e XIV si caratterizzano questo problema, questo concetto di studio generale, in tre caratteristiche generali, solenni studi. E qui è stato citato il fatto di San Tommaso d'Aquino contro il Minatore tra il Cultum e Religionem, che contro il Cinante, in cui si naturalmente si avverte che i frati hanno la possibilità di tenere aperto il loro insegnamento a tutti, non solo ai loro fratelli, e quello di dare i frati. E quindi c'è una specie di il punto di conclusione era la evoluzione di questo concetto di generalis, generale, diciamo così, applicato ad un organismo che parte da un concetto ecclesiastico di centralizzazione al concetto di interesse di scuola pubblica. Come dicevo prima, la prima volta che il termine studio generale compare in un comune, in uno statuto di un comune italiano, quindi a livello abbastanza previsto, nel 1929, ma questo ricordo non vorrebbe dire niente. La Frau Ben ha giustamente richiamato l'attenzione sulla fortuna, diciamo, di questo termine generale, all'interno di una tradizione canonistica. Quindi sostanzialmente laddove io dice il modello è nato in casa civilistica ed è stato poi applicato dalla politica scolastica della Chiesa in riferimento all'insegnamento della teologia di Parigi, questo ideal tipico è proprio dell'espressione usata dal professor Elke nell'epitamarmi, è stato applicato dal papato, e però sembra dire che può essere che anche, diciamo, l'espressione sia nata in un terreno canonistico, in un terreno della Chiesa. Ora, è evidente per quello che riguarda i consigli e così. Per quello che riguarda invece l'uso del termine studium generale all'interno del mondo dei militanti, perché certo che questo è un caso studium generale, studium solenne, questa specie di gerarchizzazione che avviene all'interno dei militanti, se si parla di scuola, bisogna parlare di fatto dei domenicani, perché i francescani sono sempre a rimorchio, non fanno altro che imitare come domenicani, che hanno una continuità di legislazione scolastica. I francescani vanno dietro. Ora, effettivamente, i domenicani introducono questo concetto di studio in generale, per cui in questa sezione possono esistere più studi generali all'interno di determinate strutture che sono, se non sbaglio, neanche le province, ma gruppi di province, non sono neanche le province dei domenicani, ma sono gruppi di province, e in questo caso è unito al concetto di pubblicità, perché sono scuole aperte, in quanto queste scuole facevano poi concorrenza alle scuole arcivescovili che non c'erano, le scuole di teologia, le facevano nascere la polemica di un insegnante di Tamari. Come avevo detto prima, è molto difficile stabilire dove l'idea, dove il termine nasce prima. Secondo me, un po' rifacendo la quello che diceva all'inizio, è normale che in sede di una facoltà giuridica si ponga più una discussione di tipo istituzionale. Quindi anche se io riconosco perfettamente che c'era nella tradizione canonistica tutta una serie di elementi che conducevano in questa direzione, mi sembra più probabile che, indipendentemente dall'origine della formula, quindi in generale chi l'ha detto per la prima volta, quello che c'è dietro, il concetto di esclusività che c'è dietro, e che adesso, visto l'interesse di questo punto suscitato, io cito le parole di Erminio, dice: studio generale è, io penso, l'alta scuola ufficiale della monarchia universale, imperiale e pontificia, romana e cristiana, quale si è vista dal Medioevo, particolarmente nel secolo XIII e XIV. Studio generale che vive nell'ambito e nella cura dei superiori interessi generali e comuni, specialmente giuridici, di tutta l'umanità civile, estraneo invece, almeno intenzionalmente, a quelle particolari del luogo in cui sorge e degli enti politici locali. Studio generale è il solo che venga coltivata la scienza, in pieno senso del termine, la scienza che, come la verità, è universale e non conosce confini di regioni. Studio generale nel quale gli studiosi di ogni terra, liberi da cure e ambizioni politiche, possono con parità di intenti alla verità scientifica aspirare e pervenire, a differenza di coloro che, studiando negli studi particolari, non potranno conoscere che una scienza parziale e al limite ad un termine. Se mi permetti, faccio una prevaricazione come presidente, ma se mi è permesso una parola. Ci troviamo di fronte a un fatto estremamente interessante, perché troviamo da una parte una tradizione ecclesiastica che considera generale come convergenza e riunione dei particolari nel consiglio, nel capitolo o altrove. D'altra parte, la circostanza che pure ha il suo peso, non dobbiamo neanche troppo sottovalutarlo, che questo termine di studio in generale compaia in un atto comunale e legato al mondo della cultura podestaria, perché la cultura degli statuti cittadini italiani è cultura civilistica e podestaria, è un fatto che sembra dare un po' più ragione ad Erminio. Però evidentemente l'espressione generale a un certo momento può essere arrivata, mi pare, dalle due direzioni e convergere, perché quello che mi sembra dalle parole della professoressa Deni come di Arnaldi, venne fuori, è che lo studio in generale si presenta come una realtà a cui si confluisce in questo momento iniziale e in cui si riunisce. Per il diritto civile o no. Quindi c'è un fatto, questo aggettivo generale è importante, forse più di quello, io direi che siamo arrivati alla conclusione che è importante più di quello che in un primo momento potesse sembrare, cioè dalla discussione emerge ancora più l'importanza di generare, ma qui mi fermo, non voglio abusare della mia. Il Parigiano aveva chiesto solo una parola. E non credi, che la mia brevissima osservazione sia di carattere personalistico. Io voglio che lei mi abbia detto il discorso. tutte le votazioni degli ordini militanti. Riguardo alle questioni, io penso l'importante per la politica militare, per il sentimento di un'idea, per il sentimento di un'idea, forse a breve distanza di raggiungere, però in un'altra rete. E ordo tra un predicatore, con una missione ben determinata sulla filosofia. Il padre Mandorei in quell'ordo di Toronto. Mentre i protestanti entrarono, i poveri protestanti, i protestanti, e se venivano al mondo, entrarono su un tappeto di fisici, forse tra i minori e i più protestanti del mondo. Per loro, dice, quale potrebbe essere non certamente a lui. Ciò però di fatto che il progredito che hanno promosso e esercitato i dominicani a Parigi, grandemente sono esercitati, l'hanno esercitato pochi, i dominicani siamo informati benissimo da Italia, la lezione di quale scrive hanno forse un di fuori di anni di un nuovo Bologna e per attivare i documenti tutti gli altri di protettivi sia di studenti che sia tra di un'altra direttiva. Però subito immediatamente lo stesso gli effetti di quest'anno esercitarono un identico indirizzo. Basti dire che la persona più qualificata dell'Università di Parigi, cioè Alessandro de Alessandri, prese l'abito pontificale e introdusse lo studio della filosofia nel convento del Corpo di Gesù, e abbiamo tutti i maestri, subito dopo che la riformata 44-45 di Alessandro, abbiamo tutti i maestri tempori. Quindi, non mi piace. No, è una via di cui tanto la mia intenzione che le idee del Mandorei abbiano plagiato. Mandorei è stato veramente bello, ma però avevo un solo di questo im Vatikanischen Konzil und arbeiten gemeinsam Franziskaner und Dominikaner, die einen an der großen Ausgabe der Werke des Heiligen Bonaventura, die anderen an der Ausgabe der Werke des Heiligen Thomas an der Gedichtsgewinnung. Und das ist ein Faktum, das noch den Pater Mount Bonnet, um nun also den Pater Fianer sinngemäß zu übersetzen, sich heute noch im Grabe herumdrehen lassen würde, denn in der Zeit, als Mount Bonnet spricht, war zwischen den beiden Orden keine Zusammenarbeit und erst recht kein Zusammenleben möglich. Dieser Konvent von Gotthard Verrater ist für unser einen, der das mit ansieht und eventuell Pate beider Orden gemeinsam auftreten und diskutieren, wie eine der erstaunlichsten Folgen, die es bei den Vatikanischen gibt. Ich glaube, für die Wissenschaftsgeschichte, auch für die Universitätsgeschichte, ungeheuer wichtig. Zwar wird immer mal ein Franziskaner oder ein Dominikaner berichtigend eingreifen, wenn er findet, dass man sich zu sehr auf einen Gewährsmann aus dem anderen Orden gründet. Aber im Grunde genommen sind die Weichen jetzt gestellt in Richtung Zusammenarbeit und das hat sich dort schon unendlich bewährt. Per noi italiani dirò solo, perché dovreste saperlo senza bisogno di troppi commenti, che l'antico gruppo di Paracchi si è trasferito a Grotta Ferrata e che dopo il Concilio Vaticano II a Grotta Ferrata convivono in collaborazione e direi gara scientifica francescani e dominicani. I domenicani di vecchio stampo non è che proprio nella tomba giuristano di questo fatto. Io volevo però, adesso facciamo il secondo elemento di questo argomento. Io credo di avere, come mi pare che si dice, misdisa, di aver parlato confondendo le cose, di avere detto proprio cose insieme, di avere effettivamente in questo caso sono stato proprio gravissimamente francese. Non sarei mai sognato di dare la palma ai domenicani rispetto ai francescani, non ho né la competenza né nulla, sono fuori. Io ho fatto semplicemente di riferimento al fatto che in materia di legislazione scolastica, che non in materia di partecipazione alle scuole, di contributo dato alle scuole, di contributo di cultura teologica, quelli che hanno inventato le formule sono stati i domenicani. Questo, se uno pensa che il vento San Domenico si preoccupava appunto che i conventi avessero dei luoghi adatti allo studio, illuminati in modo di consentire alla gente di studiare, ecco, mi domando se San Francesco avrebbe mai avuto una preoccupazione di questo genere, magari. Certo, quindi in questo senso volevo dire, e del resto quello che ho detto non è altro che il succo, e devo citarlo, di un contributo sulla legislazione comparata scolastica degli ordini mendicanti che sta per uscire nel volume di Togli di cui ho parlato prima, a cura della dottoressa Giulia Baroni, mia assistente a Roma, che ha fatto proprio uno studio comparato delle legislazioni scolastiche degli diversi ordini mendicanti, arrivando alla conclusione che non c'è dubbio che sono i dominicani quelli che inventano le soluzioni, che non vuol dire lontanamente un apprezzamento su quello che è il livello dell'insegnamento, degli studi, del proselitismo, è un discorso del tutto puramente sul piano della legislazione, della dimensione delle formule. Ma mi preoccupava soprattutto, come mi sembra, che un punto rimasto un po' indeterminato, per usare una terminologia scolastica, prima dell'intervento di Padre Fiano, che io parlando di studio in generale non ho cercato lontanamente di fare la storia della formula, bensì ho dato la formula come nata, diciamo, e non mi sono preoccupato, credo che non si sappia bene come è nata, e ho visto di che contesti questa formula è stata riempita dalla meditazione dei civilisti. Quindi io sono partito con un'etichetta. Un'etichetta che probabilmente la genesi è tutta da scoprire, anche perché questa con Mancelli in qualche modo il mio soccorso dice sei in un testo per essere in un testo statutario vuol dire che nasce la cultura per esserlo. Può essere benissimo che l'origine sia invece canonistica, come dice Frau Bene. Quello che è certo è che intorno questo concetto di studio in generale, magari senza anche servirsi della formula, hanno lavorato prevalentemente i giuristi bolognesi commentando la Costituzione Amen di Giustiniano, questo solo per dire. Quindi abbiamo da una parte la formula, da una parte questa tradizione di pensiero che sorvende se non sorvende sulla formula, ha riempito questa formula di un contenuto. Abbiamo una mancata realizzazione di questo concetto sul piano istituzionale in campo linguistico imperiale e invece una attuazione per un breve spazio di tempo di questa idea in campo papale parigino e teologico. Questo in fondo è il una genesi abbastanza complessa, insomma, quindi capisco che possa essere, ma non l'ho inteso assolutamente, e infatti è un'osservazione da fare. Che in questo studio di Erminio, che tenete presente, nella sua parte larghissimamente citata, l'espressione studio in generale compare rarissimamente nei testi citati, compare soltanto a partire da un certo momento in avanti, molto tardi. Prima parlano della cosa senza chiamarla per nome. Non conosco un grosso alarme. Devo però dire, allora con un'osservazione, una delle pro e una contro le indicazioni. Ecco, le indicazioni in qualche modo sono un po' contrarie al fatto che il concetto di studium a Bologna è un po' in decadenza, nel senso di studium che io non tengo rispetto al concetto di università. E la generalità è in rex. E questo è un punto invece molto interessante. E questo sarebbe di qua a favore della teologia. Perché? Studium è questo concetto che non so se è elaborato a Bologna, dove trovare altro. Ma la generalità, per quanto riguarda l'aspetto giuridico, è evidente. Perché tutto ciò che il diritto generale si elabora, e quindi vive, viene lavorato a Bologna. E viene tutto lavorato. In senso che è molto semplice. Abbiamo l'elaborazione civilistica, l'invenzione di Nero, la sistemazione di Graziano, e poi con qualche ignoto diritto che poi tanto ignoto non è, sistema anche il diritto feudale. E che vuol dire che civilistica, canonistica e civilistica, tutte le materie giuridiche, i significati generali, sono elaborati a Bologna, capitolato. Sarebbe appunto un apporto alla particolare. Colliva va per tenere di Glocke, di Glocke Ordinaria zu omnem nicht, aber er findet das in einer Hinsicht etwas für Erminius gegen Sprich. In Bologna sprechen man seit dem 14. Jahrhundert immer weniger von Studium und immer mehr von Universität. Aber, und insoweit zweifelt er, ob also der Ausdruck Studium Generale dort wirklich ausgearbeitet entstanden ist. Herr Analdi hatte ja vorher schon gesagt, er hat das Wort Studium Generale wie ein Etikett genommen, ohne sich um die Entstehung dieses Begriffs oder seine Vorgeschichte in seinem Vortrag zu äußern. Herr Colliva weist aber dann darauf hin, dass alles, was im Bereich des Rechts an generalen, das heißt allgemeinen Grundsätzen, Lehren und so weiter gemacht worden sei, sowohl im zivilen, das heißt im römischen Recht, als auch im kanonischen Recht, als auch schließlich im Recht der Mittelversorgung, also im Lebensrecht, von Rano Salis ist mehr als Lebensrecht, alles sei in Bologna gemacht worden und insoweit nähert sich, ohne dass der Begriff dort zu finden sei, dass Bologna auch in Bezug auf die Rechtswissenschaft, dass Bologna in Bezug auf die Rechtswissenschaft auch den Idealtypus des Studium Generale, wie er für Paris und Theologie dargestellt hat. Ancora delle richieste di chiarimenti particolari? Allora, problemi generali, abbiamo ancora tempo per questo. Sì. No, perché abbiamo ristretto il problema allo studio generale, ma c'erano altri problemi. De facto hat Bologna in Bezug auf, wie nennt man das heute, die Kreativität der Rechtswissenschaft, eine solche Monopolstellung, wie sie ein Studium Generale hätte haben müssen. De facto. Kein Anspruch. Nicht die Behauptung, wir sind die Einzigen. Aber in Wirklichkeit sind sie die Einzigen. Wo die neue Rechtswissenschaft in allen ihren Zweigen produziert, gelehrt und praktiziert. Aber wenn man die jedenfalls, also bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Ja, das war nicht ganz viel im Generale. In Paris. In Paris. Nein. Es war eine, man lehrte in Paris, aber nicht ein Studium generale. Ja, es kommt noch mal. Nein. Es kommt noch eine Sache vor. Das heißt, oh, dunque, viene fuori ancora una cosa. Che altro è insegnare diritto. Si insegnava diritto a Orléans, ma altro è insegnare diritto, altro è studio in generale. Se mi permette di aggiungere un particolare, noi abbiamo, non saprei dirvi se è una lettera di un Formibus o se è una lettera reale, noi abbiamo una lettera che, se la memoria non mi tradisce, è della metà del 200, rivolta a un monaco di Monte Cassino perché venga a insegnare teologia all'Università di Napoli. Ma non diciamo che a Napoli c'era lo studio di teologia. Allora, io scuso di fare, abbiamo un studio in generale. Ancora dei problemi? Allora, posso fare una domanda io? E la domanda si riferisce, lo accennavo nell'intervallo al professor Elze, si riferisce ad una osservazione che faceva stamani la professoressa Böhm, e che mi pare abbia trovato conferma in una indicazione che ci è venuta, se ho capito bene, che ci è venuta dal professor Arnaldi. Stamani la professoressa Böhm, parlando della licenza udite docendi, ci diceva che questa licenza udite docendi nel papato da parte dei papi è connessa alla concezione che essi hanno del pontificato come fatto della cristianità, l'insegnamento della teologia e l'insegnamento è un fatto che riguarda la cristianità. Non so se ho ben capito. In questo caso è interessante che chi introduce, se ho capito adesso poi te, che chi introduce questo concetto della licenza udite docendi è Nicolò IV. No, allora. No, ma perché c'era questo? No, la contiene a Bologna e a Parigi. A Bologna e a Parigi. Per la prima volta. Dove però c'era già, capisco. Sì, ma non c'era la formulazione. Ora, è interessante che la formulazione licenzia, udito e docenti viene da un pontefice che ha una specifica caratteristica concezione, Vagna Pontificat de Val, è il pontefice il quale al Concilio di Lione dice: io posso giudicare Federico II e contro Taddeo da Festa, che lo accusa di essere giudice e parte, dice: no, io non sono giudice e parte, perché il mio De Val di pontefice, la mia autorità di pontefice, mi mette al di sopra delle parti. Io sono il capo della cristianità, non sono un giudice. E allora, se non sbaglio, questo è un punto che conferma la posizione della signorina Beni, cioè della signora Beni, se ho capito bene. Ich wollte das sagen, Frau Beni. Sie haben heute Vormittag das gesagt. Das die Konzeption der Licenzia udita di Gottendi konnte als ein Bewusstsein gefassen der Fitte, als Träger der Gewalt, der Autorität in der Christianità. Und in diesem Sinn ist es bedeutend, dass die Licenzia udita di Gottendi ging von Nikolaus den Vierten gewählen, Willen, der eine bestimmte, eine große, ein großes Bewusstsein seiner Gewalt hatte. Ist das in allgemein? Allora, abbiamo ancora dei problemi. Tanto su queste questioni ho l'impressione che... L'importante per la, della definizione di studio in generale è spesso regno, perché questa è la forma del spirito partito. Anche questo entra molto nella lavorazione. È una, la storia della Spagna, poi anche la storia dell'Inghilterra, è completamente marginale rispetto a questo discorso, ma è, una, è un testo che viene sempre giustamente citato, quello del senso, perché è un'altra interpretazione di studio in generale, quella proprio riportata alla realtà di un regno particolare, questa è la caratteristica del senso del discorso da lei. Come questo concetto di studio generale si possa estendere alla facoltà di medicina, che a un certo momento viene connessa con tutte le altre. Io non credo che sia più connettibile, perché allora interviene l'altro concetto di studio generale, che è quello come studio dove si insegna tutto, insomma, la completezza, ma è un'idea successiva, insomma, questa. L'idea originaria non è né quella della pubblicità, viene prima di quella della completezza, cioè, quella della completezza è proprio l'ultima delle. Quindi il discorso non si riferisce, perché appunto il caso di Parigi è fisico, l'ho detto prima, è uno studio in generale dove non si insegna l'unico civile, è una cosa così importante. Quindi la facoltà di medicina non entra in questo concetto di studio in generale, è una scuola che senti in una fase, ma io credo perché non si possa, probabilmente se io mi accorgo adesso qual è il problema, che non si può richiamare poi troppo intorno al concetto di studio in generale, è un'idea che trova poi una questione in una determinata situazione in un determinato momento e poi si generalizza con un'etichetta che distingue alcuni studi rispetto agli altri. Ma in fondo quando si ragiona intorno al concetto di studio in generale si parla poi di studio, bisogna leggere nei testi, non si parla neanche di studio in generale, si parla di studio senza neanche la qualificazione, quindi non credo che si possa poi. Allora, tutte le interpretazioni diventano lettiche, anche quella citata prima da Traubel del 500, dove studio in generale è quello che ha quest'altra caratteristica. Ma originariamente nasce, secondo me, il rapporto agli studi giuridici, nel senso che ho detto prima, e poi questa applicazione del studio della teologia, che poi questo aumento della gamma, delle possibilità di insegnamento, delle facoltà, queste successive articolazioni, è una cosa che esula dalla storia del concetto di studio in generale. Questo mi sembra che sia il. Allora, se non ci sono altri problemi, noi possiamo chiudere la nostra giornata, no, la nostra tornata pomeridiana, ringraziando anche una volta il professor Arnaldi per il contributo che ci ha portato, ringraziando anche la professoressa Boni per la sua lezione di questa mattina e ringraziando tutti per aver partecipato con tanto interesse e vivacità alle nostre discussioni. A domani alle 9:30 con la lezione del dottor Zaifer. Allora domani mattina la lezione del professor Celepardo e Celestino Piana, le facoltà teologiche in Italia. Nel pomeriggio il dottor Walter di integrazione del umanismo in Deutschland. A domani allora.